Eccoci, allora io faccio una piccola apertura presentando i dialoghi, Dialoghi sulla soglia, che è appunto una rassegna di incontri promossa dalla Società Psichedelica Italiana e praticamente consiste nel avvicinarci a questo altrove, passi molto delicati, di volta in volta chiamando chi possa attraverso questa lente caleidoscopica portarci a vedere uno delle a portarci forse sì ad avvicinarci e interrogare sempre di più questo altrove. Oggi l'incontro di oggi si chiama Altrove del mito, origine del mito, origine del tempo. Abbiamo come ospiti Axis Mundi e Andrea Casella, e non voglio sottrarre altro tempo, quindi vi ringrazio tanto per essere qui e passo la parola a Marco Maculotti. Grazie Carolina, è un piacere tornare qui, un posto dove sono stato mille volte in questi anni per eventi musicali e tutto. Mi trovo meglio. Ed è un piacere anche collaborare nuovamente con Carolina, con cui abbiamo fatto eventi a Torino per la Società Psichedelica e SISC. Due parole brevemente su Axis Mundi come progetto e casa editrice. Un progetto che nasce come sito online, rivista online e poi come casa editrice e canale YouTube sulla variegata questione del sacro in senso molto ampio, cosa che mi ha anche permesso di avvicinarmi alla società psichedelica, appunto la SISC di Torino. Abbiamo pubblicato autori come Samorini, per esempio, Gianfranco Mele, forse conoscerete. Anche la questione di stasera, il secondo libro pubblicato con la casa editrice dell'ospite di stasera, Andrea Casella. È un testo che si basa sulla cosiddetta astroteologia di derivazione Santiana Descend, il famoso mulino di Amleto pubblicato da Delfi a fine anni 60. Quindi un testo molto cosmologico, astroteologico, però stasera abbiamo deciso di darci un'impronta più consona appunto agli appuntamenti della società psichedelica, appunto, e quindi privilegiando quel capitolo, quei capitoli del libro che trattano di esperienze psichedeliche in relazione all'esperienza del sacro e anche all'esperienza astrale, nel senso della connessione dell'essere umano con gli astri e con il cosmo inteso come un tutto organico. Quindi parleremo dei rituali orfici, del Kikeon o Cicerone e di altri rituali eurasiatici che prevedevano appunto l'assunzione di determinate sostanze per far avvicinare l'adepto, insomma, colui che faceva questa esperienza al ritmo cosmico. C'è l'idea quindi che il rito fin dall'antichità serviva ad avvicinare appunto l'individuo alla pienezza cosmica, per così dire, tramite il ritmo. Quindi si vede fin dall'antichità una necessità di entrare dentro il ritmo cosmico tramite il rito e quindi tramite anche delle sostanze che possono avvicinare l'individuo a questo mondo appunto così astrale, a questo cosmo organico. Non voglio rubare ulteriore tempo al relatore principale di questa sera, vi ringrazio di essere qui stasera, mi fa molto piacere e lascio la parola ad Andrea. Grazie a tutti. Sì, allora l'ottima introduzione di Marco, insomma, mi alleggerisce in un certo modo, insomma. Il compito arduo, che mi rendo conto che sia un compito abbastanza arduo, il mio quello di spiegare, ma anche il vostro, insomma, di sopportare le mie disquisizioni in questa sera in cui siamo qui riuniti, però vi vedo molto attenti e interessati, quindi insomma credo che la serata sarà proficua. Ma io vorrei, come si dice, partire in medias res, quindi fare un'introduzione che possa essere, diciamo, già riassuntiva del tema. Il mito, il ritmo cosmico. Vorrei porre innanzitutto la vostra attenzione su un concetto fondamentale, e poi ci servirà, insomma, nel prosieguo della discussione della serata. I popoli antichi non avevano il concetto dello spazio, solo il concetto del tempo, del ritmo, quella che i greci e i pitagorici innanzitutto chiamavano la musiche. Che cos'è la musiche, che noi, diciamo, traduciamo così con un termine ordinario, musica, senza particolari preoccupazioni? Che cos'è la musiche? La musiche è il grande ritmo cosmico, è la danza degli astri, è anche il fuoco che simboleggia a sua volta la ciclicità. Avete mai posto attenzione al ritmo, al ritmico accendersi e spegnersi di un fuoco nel camino oppure in un falò? Quelle fiamme che divampano e poi un secondo dopo si spengono per poi riaccendersi. Esprimono un concetto molto particolare e fondamentale, che è la ciclicità. Dice il grande filosofo, noi, cioè, lo abbiamo definito filosofo, ma era un iniziato, Eraclito di Efeso, nella sua prima sentenza, questo cosmos, questo mondo. Purtroppo noi non abbiamo più cognizione del vero significato delle parole, perché noi traduciamo ad esempio cosmos con mondo, che è una parola che per noi, diciamo, non significa quasi più nulla. Parliamo del mondo, cos'è il mondo? Una parola così generica. Per gli antichi il mondo era il cosmos, che corrisponde poi al latino mundus. E che cos'è? È l'ordine. Pitagora l'aveva definito per la prima volta. Il cosmos è l'ordine cosmico, è l'ordine in cui ciascuna cosa è iscritta. Tornando a Eraclito, dice: questo cosmos, questo mondo, questo ordine, non lo fece nessuno degli dèi né degli uomini, ma sempre era, è e sarà un fuoco inestinguibile che con misura divampa e con misura si spegne. Ecco il concetto della ciclicità, che è un concetto antichissimo, precedente addirittura alle religioni abramitiche, che sono poi il cristianesimo, l'ebraismo, l'islam, eccetera, ma anche alle canoniche religioni, insomma, dell'esoterismo greco o accadico o italico, romano. Tutto è scritto nella ciclicità. Tutto avviene secondo ordine, secondo cosmos, il cosmo. Come si fa a avere contezza di questo ordine, di questo cosmos? Ed è un altro grande iniziato che ce lo dice, Platone, allievo di Pitagora o comunque dei pitagorici. In tutti i suoi dialoghi Platone riecheggia le sentenze pitagoriche, che poi sono anche le sentenze orfiche, perciò si parla addirittura di orfeo-pitagorismo, che è la scienza cosmologica ancestrale teorizzata, diciamo, messa per iscritto almeno da Pitagora e dai suoi adepti della scuola di Crotone, fondava le proprie radici in una sapienza che lo precede di molti secoli, se non millenni. Che cosa dice Platone? Dice che la vista è diventata per noi il principe dei sensi, perché senza la vista non avremmo potuto vedere innanzitutto l'alternanza del giorno e della notte, quindi non avremmo potuto avere la contezza della dualità, non avremmo conosciuto il due, non avremmo conosciuto l'uno senza aver prima conosciuto il due. La duplicità, la conoscenza della duplicità ci consente in un secondo momento la conoscenza dell'unità, che non è di per sé stessa attingibile, conoscibile. L'unità è conosciuta soltanto in funzione della duplicità. Questo è un concetto molto importante. Quindi non avremmo avuto contezza dell'alternanza del giorno e della notte, né dei solstizi, né degli equinozi, i quali ci hanno dato per primi, dice Platone nel Timeo, testo fondamentale, summa teologica e cosmologica del mondo antico, la nozione del numero e quindi della nozione del tempo. E in estrema sintesi addirittura dice, si sbilancia addirittura la nozione di filosofia. Addirittura la filosofia è un parto della scienza cosmologica ancestrale. L'ordine cosmico, la conoscenza dell'ordine cosmico ci dà addirittura la conoscenza della filosofia, supremo dei beni, dice Platone. Ma Platone, come ben dice Giorgio de Santillana, è bicefalo come Giano Bifronte, e al contempo il primo dei moderni e l'ultimo degli antichi, cioè guarda contemporaneamente dietro di sé e davanti a sé. E quindi, pur creatore di miti, Platone è un grande creatore di miti, ma miti che raccontano sempre una verità, non sono i miti greci, non sono i miti della religione popolare ellenica, i miti di Platone. So se avete presente il mito di Er, della Repubblica, oppure il mito della caverna, eccetera. E quelli sono miti creati apposta da Platone per dire, per esprimere una qualche verità. Perché Platone dice, Omero ed Esiodo sono creatori di falsi miti. I miti che Omero ed Esiodo ci raccontano sono delle così fiabe da fanciulli. Il mito va bene, secondo Platone, quando esprime una qualche verità. E qual è un mito ellenico, un mito della tradizione popolare greca, che racconta una qualche verità? È il mito di Fetonte. Si narra in forma di mito, dice Platone nel Timeo. Questo è un mito che viene raccontato nel Timeo non a caso poco prima del mito di Atlantide. Quindi il significato che egli dà a questo mito è di natura squisitamente cosmologica, astrologica. La caduta di Fetonte, la caduta di Atlantide, anche la caduta di Troia, della città di Troia, attenzione, ci raccontano con parole diverse sempre lo stesso mito, lo stesso mitologema. Dice Platone del mito di Fetonte, per bocca di Solone, bontà sua, perché nei suoi dialoghi fa sempre parlare terze persone, ovviamente. E il Timeo ci presenta il suo antenato Solone, che bontà sua si era recato in Egitto, terra ancestrale per antonomasia, quindi depositaria di segreti millenari, arriva nella città di Sais, che è una città egizia del delta del Nilo. Il buon Solone approccia uno dei sacerdoti egizi, siamo tra la fine del VI secolo e l'inizio del V secolo avanti Cristo. Plutarco ci ha anche tramandato il nome di questo presunto sacerdote, Sonchis di Sais, secondo Plutarco. Solone si avvicina al sacerdote, gli chiede notizie dell'Egitto, insomma, perché insomma, vuole conoscere questa scienza ancestrale, depositaria, insomma, di una cultura millenaria come quella egizia. Sacerdote egizio dice: Solone, Solone, insomma, voi greci siete come fanciulli in confronto a noi, giovani siete, perché nelle vostre anime, nella psiche, nella memoria, non avete memoria di una conoscenza tramandata da tante generazioni come abbiamo noi egizi. Giovani siete. E gli racconta appunto del mito di Fetonte, che appunto Platone dice è anche un mito conosciuto dagli egizi. Si narra in forma di mito, dice Platone, ma la verità è tod aletes esti, aleteia aletes, vero, aleteia verità, ma la verità è uno spostamento dei corpi celesti che avviene a grandi intervalli di tempo. Quindi Platone, nemico dei miti popolari, dice che però il mito di Fetonte ci racconta una verità, che è uno spostamento dei corpi celesti che avviene a grandi intervalli di tempo, provocando un incendio della terra. E che cos'è questo concetto? Questa è la precessione degli equinozi. Il grande moto precessionale, astrale, cosmologico dell'universo. Voi dovete avere sempre presente un universo geocentrico. Mi raccomando, con la Terra al centro dell'universo e le sette sfere planetarie più la sfera delle stelle fisse, per la verità, che le ruotano attorno. Questo è importante per quello che dirò dopo della musica. Però abbiate innanzitutto presente questo universo geocentrico, la Terra al centro, sette sfere planetarie e la sfera delle stelle fisse come ottava sfera o nona sfera, secondo alcuni, secondo le tesi sono diverse, che racchiude questo cosmos, che è veramente un ordine, è veramente un ordine. Noi siamo immersi in un caos. Noi non abbiamo più concetti di. Non abbiamo più il concetto dell'ordine, non abbiamo più il concetto del cosmo. Noi siamo stati dal cristianesimo, poi dallo scientismo, che rappresenta semplicemente la secolarizzazione poi dell'ideologia cristiana. Non abbiamo più un concetto di cosmo, di ordine, abbiamo un concetto di casualità e di caos, anche se il caos, come spiego, come cerco di spiegare anche io all'inizio del mio libro, all'inizio era un concetto ben diverso dal mero disordine. Il caos tradizionale non è il mero disordine, è lo stato principiale, che secondo gli stoici addirittura corrisponde all'acqua e quindi ha dei paralleli molto stretti anche con le famose acque cosmiche dell'inizio del Bereshit, cioè del Genesi, e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque, eccetera eccetera, con traduzioni abbastanza libere anche quelle. Però il caos non è una vera assenza di ordine come concetto primordiale. È un concetto ben diverso. È lo stato principiale in cui le cose non si manifestano, ma che poi si manifesteranno. Addirittura la teoria quantistica ci ha spiegato che addirittura il nulla può produrre delle particelle. Pazzesco. E gli antichi erano riusciti, attraverso la mera speculazione filosofica, attraverso l'intuizione psicologica, l'intuizione non empirica, ecco, ad avere già contezza di tutti questi fatti. Ma del resto pensate all'atomo di Democrito, no? L'atomo lo abbiamo scoperto come elemento empirico quando? La fine dell'Ottocento, nel Novecento, come elemento empirico, ma è già nel V secolo, nel IV secolo avanti Cristo, era stato, tra virgolette, scoperto da Democrito. Com'è possibile questo? Vuol dire che la nostra mente ha delle potenzialità latenti, delle potenzialità superiori, sopite, rispetto a quelle che, diciamo, esprime nella realtà quotidiana. Evidentemente è così, perché altrimenti non si spiegherebbero queste intuizioni di secoli. Cioè, non stiamo parlando dell'altro ieri, stiamo parlando di 2000, 2500 anni fa. E del resto gli scienziati che sono venuti dopo hanno dato a questo elemento il nome di atomo. Atome, quello che non si può più scindere, quello che non si può dividere. Poi abbiamo scoperto che si può dividere anche l'atomo, comunque, eccetera, eccetera. Però, voglio dire, le potenzialità della psiche, le potenzialità dell'intelletto umano, sono vastissime. E come si arriva a questa conoscenza? Gli antichi parlavano di iniziazione, perché la musica, il ritmo dell'universo, la comprensione del ritmo cosmico si comprende su attraverso delle pratiche ben codificate. Noi abbiamo conoscenza del fatto che gli antichi avessero delle sostanze materiali, delle sostanze che noi definiamo psicotrope, cioè psiché, tropè, letteralmente cambiamento della psiche. Ma psiche è l'anima, innanzitutto. Poi noi l'abbiamo attribuita ad una funzione del cervello, ma psiche innanzitutto è, diciamo, primordialmente è addirittura il respiro. Psychein, come spiego anche nel libro, psychein originariamente significa è l'atto dell'espirare, del respirare. Perché gli antichi, giustamente, quando vedevano un cadavere, qual era la prima cosa che facevano? Vedevano se respirava oppure no? La famosa prova dello specchietto, insomma, se si appanna il soggetto respira, se no no. Quindi l'assenza del respiro, della psiche, è innanzitutto indice del fatto che il corpo sia morto, quindi privo della psiche. Con Platone ha un cambiamento di significato. La psiche non è più, diciamo, il mero soffio vitale, quello che gli ebrei peraltro chiamano nefesh. E poi tutti i popoli antichi, cioè, ci sono degli studi molto interessanti sul concetto di anima, editi dagli antropologi nel corso dei secoli, per vedere. Vediamo, mettono a comparazione, insomma, una trentina di popoli per esporre, insomma, per ognuno di essi il concetto di anima che ognuno ha. Alla fine uno di questi studi, peraltro, dice che l'anima è l'ombra, quella che i greci chiamavano eidolon, che, diciamo, è una specie di doppio. In tedesco li chiamano il doppelganger, perché l'anima poi ha una serie di declinazioni. Gli egizi lo sapevano bene, perché gli egizi hanno vari concetti di anima. Il concetto sciamanico, anche questo, che la religione egizia è molto sciamanica. Ma non mi dilungo su questo. Parlavamo di sostanze. Nell'iniziazione dei popoli antichi, io diciamo, da studioso della tradizione classica, ho presente la tradizione orfico-pitagorica, anche l'eusina, strettamente collegata. Anche se, per la verità, la tradizione eleusina si pone, rispetto a quella orfica, su un piano maggiormente ecco-matriarcale, successiva, però non sto qui a fare questi distinguo, insomma, magari un'altra volta ne parleremo. Comunque, tutte queste iniziazioni avevano al loro centro l'assunzione di una bevanda psicotropa, abbiamo detto psiche, tropè, cambiamento della psiche, tropè. Non so se qualcuno qui è del sud, calabrese in particolare, come noi diciamo come pronunciamo noi la tempesta, la tropea, che deriva dal greco, no? Improvviso rivolgimento del clima, no? Del tempo, tropè, cambiamento, rivolgimento. Come si raggiungeva, secondo l'Orfeo Pitagorismo? Con il chiucheon, dicevano i greci, il ciceone, che è una sostanza che è stata avvicinata, secondo alcuni, alla famosa solita segale cornuta, cioè questo fungo che crescerebbe, insomma, sulle spighe di grano e quindi inquinerebbe, insomma, poi quella che è la modalità, insomma, di produzione del grano, eccetera. Dato le streghe di Salem pare che fossero, insomma, possedute alla segale cornuta, però questa, diciamo, è sempre una facile scappatoia dei soliti psicologi o psichiatri, insomma, chi per essi. Non che, diciamo, la segale cornuta obiettivamente non esista, perché voglio dire, la segale cornuta poi rilascia una sostanza che si avvicina a quella all'LSD, no? Insomma, all'acido lisergico, quindi un potente allucinogeno. Però questo è interessante, nel senso che c'è bisogno di un veicolo per accedere agli stati di coscienza superiori e quindi, in un certo senso, tra virgolette, cavalcare il cosmo. Allora, l'orfismo, parliamoci chiaro, è una forma di sciamanesimo, sostanzialmente, né più né meno. Orfeo era un grande sciamano, dominatore degli animali, signore degli animali. Al suono della sua cetra gli animali accorrevano, sapete, no, tutti la storia della discesa agli inferi di Orfeo alla ricerca della sua amata Euridice, che poi è l'anima, no? È un concetto, insomma, dell'anima, la ricerca della propria anima perduta. Ognuno di noi nasce con una divisione, no? Siamo scissi. Dobbiamo ritrovare, sì, c'è l'anima gemella, no? Insomma, anche nella visione popolare, no? Ognuno di loro deve riunirsi all'anima, la metà almeno dell'anima che ha perduto. Quindi Orfeo, grande signore, grande sciamano, signore degli animali. Gli animali, attenzione, non sono le bestie canoniche, ordinarie, materiali, il cane, il gatto, eccetera, sono le costellazioni. Quando noi facciamo questi discorsi, come dice anche lo pseudo Luciano, e se tu vuoi vedere questi animali che sono in compagnia di Orfeo, non so se avete mai visto qualche mosaico di Orfeo, no? Con la cetra e in compagnia di attorniato dagli animali, quelle sono costellazioni, Il toro, il leone, il corvo, il serpente. Orfeo, grande sciamano, tiene in pugno le costellazioni, ma perché? Perché il signore del cosmo è la cetra dalle sette corde, ci dice l'orfismo, ci dicono i frammenti orfici, messi per iscritto, riuniti da Otto Kern, sono tutti tedeschi poi questi studiosi purtroppo, diciamo, effettivamente. E questi frammenti messi insieme da Otto Kern ci lasciano, diciamo, il quadro chiaro del fatto che questi animali erano le costellazioni. Ma perché lo sciamano centroasiatico, nei suoi stati di coscienza alterata, non sale una scala dalle sette corde? Il suo strumento magari non è la cetra dalle sette corde, ma è il tamburo. E al ritmico suono del tamburo, la sua anima, che fuoriesce dal corpo materiale, sale questa scala dai sette gradini fino all'aldilà. Ma questi sette gradini che cosa sono? Sono le sette sfere planetarie, le sfere del cosmo. Ma non ci si libera del cosmo senza aver prima compreso il cosmo. Questo è un passaggio importante che vedo che molto spesso comunque tutti i nostri grandi guru, eccetera, maestri, insomma, variamente denominati, ci indicano. Bisogna prima avere coscienza del cosmo. È facile dire: no, io voglio liberarmi dal corpo, mi voglio liberare del cosmo, dell'universo, eccetera. Bisogna prima conoscere il cosmo e il corpo, perché il corpo è sempre un frammento della cenere dei titani. Ma senza i titani non esiste Dioniso. Quindi senza la polvere dei titani, così creata da Zeus, perché incenerì, bontà sua, i titani. Zeus si pone sempre come una sorta di ordinatore cosmico. La sua folgore è sempre un simbolo di uno strumento di misurazione temporale. C'è sempre Zeus di mezzo, anche nel mito di Fetonte. Chi è che fulmina Fetonte? È sempre Zeus. Che voi non troverete mai, però, in forma di cavallo. Troverete sempre in forma di toro. Cioè afferente a quella che è l'età del toro. L'età precessionale del toro. Quella che viene dopo l'età dell'oro, almeno l'età dell'oro più vicina a noi, che è l'età dei gemelli, perché poi in una visione necessariamente ciclica del cosmo e delle cose, insomma, si sono succedute innumerevoli età dell'oro e età del toro, dell'argento, eccetera eccetera. Dice Eraclito ancora: comune è l'inizio e la fine del cerchio. Quindi nel cerchio noi vediamo al contempo l'inizio e la fine. Dice Platone: il cerchio è la figura geometrica più perfetta. Ed è molto interessante questo fatto, perché secondo Platone e i pitagorici prima di lui, il tempo si vede, tra virgolette, prima sotto forma di forme geometriche. Non so se avete presente il pentagramma pitagorico, il famoso, quello che... il pentagramma Veneris, il pentagramma di Venere, che poi è stato, diciamo, associato alla stregoneria, ecco, tutte quelle storie che non hanno nessun senso. Il pentagramma pitagorico, il pentacolo, o pantacolo, dice Plutarco, perché racchiude in sé il tutto, quindi pente 5 è uguale a panta tutto, rappresenta i cinque lampeggiamenti del pianeta Venere sull'eclittica nell'arco di 8 anni, cioè cinque congiunzioni astrali tra il Sole e Venere nell'arco di 8 anni, e che formano sull'eclittica, se voi andate a vedere, a riunire, le cinque congiunzioni Sole-Venere nell'arco di 8 anni sulla eclittica, vi restituiscono proprio il pentagramma pitagorico. Che cosa significa questo? Significa che il tempo è visibile. Cioè la geometria ci dà la nozione del tempo. Le figure geometriche fanno balenare nell'ordine del tempo qualcosa di visibile. Ora, Nassimandro parlava per esempio di apeiron, cioè l'illimitato, l'indefinito. E che cosa intende? Secondo Giorgio De Santillana intende i fenomeni temporali, l'apeiron. Secondo me invece ha un'accezione un po' diversa l'apeiron. Secondo me apeiron significa, cioè è l'anima della ciclicità, sostanzialmente. È il sistema, perché poi Anassimandro parla di giustizia cosmica, cioè tutte le cose che nascono e muoiono, cioè tutte le cose devono nascere e perire secondo l'ordine del tempo. E questo è il concetto della ciclicità, cioè il sistema dell'apeiron, dell'illimitato, dell'indefinito, dell'indefinibile, è l'essenza dell'anima del tempo. E le figure geometriche, come il pentagramma pitagorico, ci danno visibilmente una nozione temporale che altrimenti non sarebbe, diciamo, apprensibile, se non con il supporto di sostanze psicotrope, perché voi sapete, cioè avete avuto magari delle esperienze psichedeliche in cui, che cosa vedete innanzitutto? Triangoli, pentagrammi, quadrati, le forme geometriche più semplici, fondamentali, no? Addirittura anche Platone dice la cora, cioè lo spazio, è formata nella sua estrema sintesi da triangoli. E quindi il tempo, che normalmente non è computabile, non è apprensibile, non è conoscibile, attraverso l'ordine cosmico celeste, attraverso i nostri ordinatori cosmici che sono i pianeti, è comprensibile. E quindi noi, nell'ordine cosmico, nell'ordine astrale, possiamo vedere l'ordine del tempo. Voleva dire qualcosa Marco, forse? Sì, guarda, faccio un piccolo intervento, visto che hai menzionato Venere, il pentagramma. Per i popoli precolombiani, mesoamericani, Venere ha un'importanza centrale, sia astrologica, infatti tutti i calendari maya, aztechi, erano fondati sul calendario lunisolare e venusiano insieme, e poi anche appunto connesso alle esperienze psichedeliche. Autori studiosi non tradotti mai in italiano trovano sempre nel pianeta Venere un elemento centrale dei riti psichedelici, psicotropi del Mesoamerica precolombiano, e questo si trova anche nel Sud America con il San Pedro. Il San Pedro ha la forma del pentagramma, di una specie di pentacolo, e per questo era stato addirittura connesso dagli indios, dopo poi la cristianizzazione forzata, a una specie di superamento della croce, nel senso che il cristianesimo veniva visto in questa mentalità simbolica come fondato sul 4, quindi sullo schema, sul quadrato, e il pentagramma invece il 5 era quello che permetteva al tempo stesso di superare il 4 e quindi questo ordine costituito, ma anche di superarlo, appunto il 5 supera il 4 nel senso che si esce dall'ordine costituito per trovare un ordine appunto superiore, che è quello del 5. E questo appunto si ritrova astroteologicamente nel superamento del calendario lunisolare con questi cicli di Venere. Moltissimi popoli mesoamericani e precolombiani inquadrano gli eventi mitostorici, mitopoietici di questa loro storia mitica appunto in accordo col pianeta Venere. Addirittura ci sono una serie di miti, leggende secondo cui il popolo azteco, per esempio, avrebbe saputo in anticipo dell'arrivo degli spagnoli studiando il ciclo di Venere. Però questa cosa non era mai vista come un elemento distruttivo di per sé, era visto come un elemento di superamento, che appunto a livello storico, per quanto riguarda tutto il popolo azteco, veniva visto a livello appunto collettivo. Però nei popoli più ancestrali, più antichi, come alcune tribù indiane d'America o del Perù preincaico, era sempre connesso a un'esperienza sciamanica individuale, e quindi anche qui connesso a San Pedro, alla forma delle cinque punte del San Pedro. È un discorso un po' complesso forse, però c'entra con quello che dicevi tu sul pitagorismo, sul 5. Forse è anche per questo che, come dicevi tu, il pentagramma è stato legato alla stregoneria. Anche lì, storicamente, nell'inconscio collettivo europeo c'è una specie di tentativo di superare il blocco anche animico collettivo del cristianesimo, che era già durato 1000 anni lì nel 1200, quando iniziano i processi per stregoneria, tramite appunto questa riscoperta del simbolo del pentagramma, che anche lì, guarda caso, poi la stregoneria è sempre legata a Venere, sia come pianeta ma soprattutto come la dea Venere. E, non so, i baccanali sul monte di Venere, il monte Tonale nei pressi di Bergamo, che era connesso appunto alla dea Venere, questi viaggi nell'aldilà sottoterra, il regno di Venere, i monti sibillini. E qui si va indietro veramente a un passato precristiano, e anche le sibille, queste operatrici femminili del sacro, del divino, che sono sempre anche lì. C'è ovviamente una conoscenza del cosmo e dell'ordine cosmico, però c'è sempre un'uscita da questo schema prestabilito, e solo in quel momento si raggiunge la profezia e la capacità di vedere oltre, no, il... Ma è chiaro che, diciamo, il passo fondamentale successivo è quello dell'uscita dal cosmo. Però mi fanno ridere quelli che dicono dobbiamo uscire dal cosmo senza aver avuto prima piena contezza del cosmo. E ragazzi, l'iniziazione in ire, andare, e si fa un passo alla volta. Cerchiamo di guardare prima in faccia il cosmo, la ciclicità, la mortalità, la caducità. Poi dopo magari facciamo i discorsi sulla liberazione dalla prigione, tra virgolette, della specie, che dicevano gli gnostici. Un passo alla volta, l'iniziazione si fa in anni, in decenni, non è immediata. Diceva Marco giustamente il numero 5, e il numero 5, il 5 è il numero dell'uomo, dell'essere umano. In 8 anni, però, questo rapporto tra l'8 e il 5, che è molto importante. Ma se voi, ora, tornando, diciamo, alle civiltà mesopotamiche, che sono le prime, insomma, cioè, bontà loro, civiltà storiche accertate, nei Kudurru, cioè nei cippi confinari che hanno la forma di una pietra nera, molto spesso, troviamo sempre rappresentati, loro avevano una religione astrale potentissima, quindi quello ci fa anche, come dico all'inizio del mio libro, insomma, ben capire, insomma, quale fosse l'idea, la religiosità astrale preistorica, primordiale, che era una religiosità veramente astrale. Che cosa rappresentano sempre loro sui Kudurru? Rappresentano i tre simboli dei tre pianeti fondamentali. Luna, Sin, Venere, Ishtar, Sole, Shamash. Ora l'ho detto in versione accadica, perché loro la riprendevano dai Sumeri, dicendola in lingua sumera, che non è una, però, una lingua semitica come l'accadico. Nanna o Nannar, la luna, Inanna, Venere, Utu, Shamash, il sole. Troviamo sempre questa relazione fondamentale tra questi tre attori cosmici, che ci davano veramente la misura fondamentale dell'essere e del tempo, perché il tempo degli antichi è l'essere. L'essere non è questo tavolo, questo foglio, questa Carolina, oppure questo Andrea, insomma, o questo microfono. L'essere degli antichi si pone su un piano diverso. È il tempo. È il tempo, il vero essere. Ma da dove discende il tempo, la conoscenza, la nozione del tempo? Dal cielo. Dice Platone, come io riporto, Ebbene, il sempre nel famoso Timeo, perché il Timeo è purtroppo il testo principe fondamentale, la summa teologica della cosmologia antica. Dice Platone testualmente a un certo punto, il tempo ha avuto origine insieme con il cielo. Senza cielo non c'è tempo e senza tempo non c'è cielo. Abbiamo visto balenare nel cielo la nozione del tempo e quindi ok, abbiamo il pentagramma pitagorico oppure la stella a sei punte di Saturno che poi è la stella di David gli ebrei la chiamano scudo di Davide per la verità, invece i musulmani la chiamano chiave di Salomone, no? Diverso. Saturno però, Shalim, che spero insomma di esporre nel mio secondo volume che è in preparazione, un'esposizione sulle antiche religioni del Vicino Oriente, quindi la spiegazione del perché gli ebrei o comunque i popoli semitici del Vicino Oriente avevano come loro dio fondamentale Saturno, che poi rimane ad esempio nel tempio di Mecca, della Kaaba, che voi sapete essere un cubo nero, no? Keplero stesso aveva teorizzato il fatto che la sfera più esterna di Saturno era un cubo. Lo stesso tempio di Salomone, distrutto la prima volta dai babilonesi nel 586 a.C., la seconda volta dai romani nel 70 a.C. Il Santo dei Santi aveva una forma cubica, perché Yahweh, il dio degli ebrei, è una forma di Saturno, di cui parlo per esempio anche io in un capitolo apposito, Saturno metronomo del cosmo arcaico, in cui cerco di spiegare il fatto che Saturno fosse veramente il dio del tempo arcaico. Cronos, Saturno, Cronos con la K, che però io assimilo a Cronos tempo con la chi, lettera greca, tra l'altro croce, immagine del tempo, cioè dell'eclittica e dell'equatore che si incrociano, geroglifico del tempo. Cercherò, anche sulla scorta degli assiriologi e insomma di studiosi, di semitisti, insomma studiosi del Vicino Oriente, delle lingue del Vicino Oriente, il fatto che gli antichi del Vicino Oriente, perché poi sapete la tradizione greca arcaica narrata da allora i greci, come ho detto prima, sono gli ultimi arrivati, come ben disse il sacerdote ritornando al sacerdote egizio a Solone, che lo liquidò in 448, e gli disse: Solone, voi greci siete solo dei fanciulli e giovani siete, quindi sostanzialmente non capite niente. I titani, la narrazione dei titani non è altro che la mitologia fenicia, cioè Cronos, il re dei titani, che evira Urano stellato il cielo, e quella è la mitologia fenicia. È una religione, cioè una tradizione che veniva dal Vicino Oriente, perché i greci, come in quanto tali, non hanno inventato niente, hanno riadattato alla loro lingua quella che era la mitologia fenicia. Posso intervenire un attimo? Assolutamente sì. Per riportare il discorso un attimo a un ambito più generale, tu hai parlato di sacralità delle figure geometriche, di sacralità della musica, cioè del ritmo del cosmo, di sacralità degli animali. Secondo me andrebbe messo in rilievo, allora, sulle figure geometriche connesse alle varie fasi divine cicliche del cosmo, già ne parla Platone, ovviamente riprendendo da altri autori più antichi, ma secondo me un autore veramente fondamentale su questi temi è Marius Schneider, che studiò le cosmologie dei popoli indigeni fino ai popoli sumeri e via dicendo, greci eccetera, da un punto di vista appunto simbolico fenomenologico, cioè inquadrare il Dio non come entità a parte da venerare in maniera devozionale, in maniera anche servile, ma invece il Dio come un qualcosa di indefinibile che però attraverso le cosmologie, le cosmogonie, cioè le creazioni del cosmo e quindi poi dell'anima umana, del mondo e tutto quanto, si sviluppa in delle fasi. E queste fasi sono sempre connesse a determinate figure geometriche, note musicali, addirittura Mario Schneider dice gli dèi nelle cosmogonie indigene antiche erano canti, il Dio nasce come canto, non come individuo, come persona. Poi in realtà questi canti, queste note che sono le note della sinfonia cosmica, dell'armonia delle sfere, poi anche pitagorica, prendono forma di animali, di forme geometriche. Questi animali mitici che si trovano per esempio nelle cosmogonie, ma poi anche nelle mitologie, per esempio dei nativi americani, degli aborigeni australiani, non sono mai solo animali e basta, sono animali in quanto quella forma determinata animale esprime un concetto che va ovviamente al di là della forma animale e che ha anche a che fare con una specifica individualità, per così dire, divina, ma anche qua divina è un termine che noi ovviamente associamo a un dio, ecco, monoteista, che forse non andrebbe bene, però questo per dire che l'animale in questi miti non è mai animale e basta, come nel mito di Orfeo. Gli animali non sono animali nel senso bestie, sono gli elementi animici, animali, animico del cosmo, e quindi l'essere umano per connettersi a Dio, cioè al ritmo cosmico che va al di là delle sue varie suddivisioni, deve conoscere questi animali. Per esempio in tutte le tradizioni sciamaniche vari tipi di animali sono gli iniziatori di varie fasi sciamaniche. Non so, quando per esempio il bambino in alcune tribù dei nativi americani o dei siberiani viene scelto dagli spiriti, gli spiriti quando lui è bambino appaiono in una determinata forma. Poi quando lui cresce deve ricevere alcuni tipi di insegnamenti, a seconda della tipologia diversa di insegnamenti appaiono come diverse tipologie di animali. Quindi qua vediamo l'animale che, ovviamente la forma animale che l'iniziato insomma vede, in realtà esprime qualcosa che va al di là della forma intesa nel senso appunto zoomorfo strettamente. È qualcosa che va a connettersi con qualcosa di ritmico, di astrale e di fasi, insomma, di che secondo me anche nelle esperienze psichedeliche si capisce bene questa. Ma sai, ritorno sempre a Platone. Le anime che si reincarnano, che ritornano, che ricadono sulla Terra, come ricadono? Sotto forma di stelle. Le stelle cadenti che voi vedete, no, nelle notti chiare, insomma, limpide, secondo la teoria pitagorica e poi platonica, sono le anime che corrono a reincarnarsi. Alla fine del mito di Er, che è una vera e propria, appunto, esperienza sciamanica, no? Cioè, Er sulla pira, no? Era stato posto sulla pira in attesa di essere cremato, secondo il rituale, appunto, della cremazione funeraria, ha un'esperienza dell'aldilà. Ora Eliade dice che questa storia sarebbe basata su un testo iranico addirittura, quindi una catabasi di Zoroastro addirittura, ecco. Comunque, esperienza sciamanica, quindi la visione che l'anima di Zoroastro avrebbe avuto dell'aldilà. E alla fine, insomma, della visione di Er c'è proprio la visione nella pianura delle anime, il fatto che lui vede le anime che corrono a reincarnarsi sulla Terra, come lo fanno? Sotto forma di stelle cadenti. Quindi è chiaro che, ovvio, quasi, che gli animali non sono, ma anche gli stessi animali in cui si trasforma lo sciamano, non sono gli animali così bruti della nostra quotidianità, sono dei simboli di costellazioni. Tutto ha il suo perché, la sua ragione nel cielo, che è visto come il vero e proprio ricettacolo dell'essere, della verità addirittura. La pianura della verità, di cui parla ancora Plutarco, per esempio, in cui espone un oscuro mito secondo cui vi sarebbero le anime che si riuniscono nella pianura della verità. Ma che pianura è questa, la pianura della verità? È sempre il cielo. È sempre il cielo. Siamo noi che non riusciamo più a vedere il cielo, perché purtroppo vivendo insomma nelle città così inquinate dal inquinamento luminoso, eccetera, non possiamo vedere quello che noi veramente siamo. La vera astrologia è quella che ci riconnette al nostro stesso principio, a quella che è la nostra anima, il nostro segno zodiacale. Addirittura il nostro nome, perché le lettere, ancora una volta, discendono dal cielo. L'alfabeto, come dico anche nel mio libro, studiosi come ad esempio Giuseppe Sermonti ci hanno spiegato che le lettere alfabetiche molto probabilmente sono state lette nel cielo. Avete presente la A, l'Alef? Quella è una. Sono le due corna del toro stilizzate. Perché a quel tempo, nell'era del toro, appunto 4500 anni fa, lo zodiaco prendeva, bontà sua, inizio dalla costellazione del toro. E quindi la Aleph, la A, si legge prima nel cielo. Tutto discende dal cielo. I greci avevano una parola che, ancora una volta spiego nel mio libro, una parola che riunisce in sé tutti i significati fondamentali di queste cose. Stoicheion. Stoicheion, innanzitutto, è, che cos'è? È il segmento di linea misurato a passi. Cioè l'ombra dell'ognomone, avete presente gli obelischi, no? Che danno l'orario alle ore del giorno. Significa innanzitutto quello. Ma stoicheion significa anche segno zodiacale, figura zodiacale. E stoicheion, in terza battuta, significa anche lettera. Mi viene in mente anche il famoso, quelli che alcuni autori chiamano l'alfabeto paleolitico. C'è una serie di simboli che sono stati trovati nelle grotte di tutto il mondo fin da 30-40 mila anni fa, sempre gli stessi segni, sempre gli stessi simboli, che è stato tra l'altro studiato anche da autori di studi psichedelici, insomma, che l'hanno collegato ai simboli, segni che appaiono durante l'esperienza psichedelica, all'inizio dell'esperienza psichedelica vera e propria. E ovviamente questi simboli che poi troviamo, non so, nelle grotte in Valcamonica, in quelle in Francia, storiche dei Neanderthal, in Siberia, in Sud America, eccetera, sono poi, col passare del tempo, sono diventati degli animali o comunque forme naturali, rami, eccetera. Però inizialmente erano simboli geometrici sicuramente, forse astrali. Ci sono anche delle teorie secondo cui Lascaux e altre grotte, mi ricordo il bellissimo documentario di Werner Herzog per esempio, sarebbero delle, quel famoso bisonte che c'era Lascaux, sarebbe la configurazione astrale del toro con tanto di Pleiadi, di tutto quanto. E questo porta molto avanti la conoscenza degli studi sacrali e religiosi nella preistoria, perché no, normalmente si dice che la religione nasce coi Sumeri, ma invece già l'uomo primitivo, per così dire, aveva una sua religiosità e visione sacrale del mondo, che a quanto pare era legato, uno, a delle esperienze visuali causate da esperienze appunto psicotrope. Anche qui c'è il discorso della caverna, dell'incubazione, quindi dello scendere sottoterra al buio completo, non avere più degli input dall'esterno per poter evadere dal corpo fisico, insomma, e due, anche da una questione astrologica di costellazioni. Ed è particolarmente curioso anche il collegamento, che è tra l'altro tradizionale in molte popolazioni indigene, tra la caverna e il cosmo, quindi la caverna cosmica. Ma adesso ti vorrei mettere in difficoltà un attimo. Lo stesso sogno di Giacobbe della scala, no? Su cui lui vede gli angeli che salgono e scendono dalla scala, no? Non è un'esperienza sciamanica anche quella? E quel luogo fu conosciuto come Bet-El, la casa di Dio, in greco oikosteu, casa di Dio. È un vero e proprio temenos, no? Lui giace a dormire, addirittura dicono le fonti extrabibliche che lui si era messo a dormire di giorno, perché Yahweh aveva fatto scendere la notte prima, quindi è come se lui fosse in una caverna, tra virgolette, artificiale, no? Yahweh aveva, cioè era appena mezzogiorno, ma Yahweh diciamo, aveva mandato avanti il tempo, quindi aveva detto già scendere la notte. Quindi il sogno di Giacobbe si pone come veramente un'esperienza sciamanica, no? E questa scala che va su e giù, che ha le sue radici nella terra e il suo vertice nel cielo, è la scala sciamanica, no? La scala dei sette pioli, da cui gli angeli, poi dice la Bibbia, no? Salgono e scendono. Mm. Terribili sest locus iste, poi si sveglia, cioè. Questo è veramente un luogo, noi diciamo terribile, però è, diciamo, un luogo straordinario, un luogo inconsueto, un luogo meraviglioso. E questo è veramente, lui dice, perché è Dio era qui, era presente e io non lo sapevo. Che poi è un concetto fondamentale anche della massoneria, no? Cioè la tradizione massonica ha, diciamo, questo mito della scala di Giacobbe come suo mito fondamentale, anche perché la massoneria, poi, avendo le radici nel pitagorismo, ovviamente, quindi come dico anche nel mio libro, insomma, perché faccio vari riferimenti ad Arturo Reghini, grandissimo, l'ultimo grande pitagorico, io dico. Infatti, se voi andate a visitare la tomba di Arturo Reghini, sulla sua lapide ha un pentacolo, appunto, una stella a cinque punte, che è il simbolo pitagorico fondamentale, la stella Venere. Tutto questo, diciamo, ha dei grandi fondamentali collegamenti. Il pentacolo, dice Plutarco, il pantacolo, cioè il tutto, è lì che è la conoscenza del tutto. Senza la conoscenza astrale, senza la conoscenza cosmologica, senza la conoscenza astrologica. Io dico, il mio sottotitolo è la cosmoteologia arcaica. Cos'è la cosmoteologia? È l'interpretazione, non è altro che l'interpretazione astrologica della teologia. Cioè questi corpi, tra parentesi, celesti, sono dei, come dice Aristotele, in un passo dimenticato della metafisica. Però c'è sempre una connessione tra il macrocosmo e il microcosmo. È per forza. Cioè, è l'anima, la appunto, grande domanda è... Ma l'anima è una stella. Ma la grande domanda è perché l'uomo, l'essere umano, conoscendo i movimenti astrali, costellazioni, cicli cosmici, realizza se stesso? Perché c'è questo parallelismo tra un piano macro e un piano micro? Cioè, senza questa, no, senza questo punto non si capirebbe il perché... L'astroteologia, la cosmoteologia, cioè il discorso è, e secondo me si ricollega bene anche agli studi di James Hillman, il codice dell'anima, mi viene siamo in mente. Siamo un frammento dell'universo. Nel senso, tutto quello di cui noi abbiamo parlato stasera, figure geometriche, note musicali, canti, animali, tutto quanto, viene visto non per un'importanza che ha il singolo animale, la singola nota, il singolo dio, il singolo canto, ma per un inquadramento di quella singola parte nel tutto. E solo in questo modo, appunto, l'essere umano può unire il piano microcosmico e macrocosmico con la presa di coscienza di determinati cicli, di determinati movimenti. Questo poi è un discorso che hanno trattato autori come la Passad, dallo sciamano al rave, quindi anche il discorso sul rave, l'incontro collettivo di individui che ballano la stessa musica e danzano, e questo ovviamente è molto sciamanico già in sé, la danza, e escono da sé, quindi l'uscire da sé collegato a un ritmo. Poi vabbè, tu facevi il discorso dell'8 e del 5, a me viene in mente anche qua il ritmo musicale in quattro quarti, nell'ottava e poi la quinta che supera il 4, è sempre un superamento dello schema prestabilito e quindi un'uscita dai propri limiti. Tutto questo si rifà bene anche se vogliamo alla localizzazione di determinati eventi, rave come all'aria aperta, sotto il cielo notturno, senza luci particolari, quindi solo il ritmo, il cielo notturno e quindi una connessione, anche un'uscita, una possibilità di uscita. È quasi una musica da fabbro, se posso... questo è il famoso mito di Pitagora, posso del azzardare. Fabbro, che Pitagora scoprì, no, le sette note osservando un fabbro che batteva con gli strumenti il metallo. Sì, infatti voglio ritrovare proprio il passo opportuno. Sì, sempre sì. Allora, secondo la leggenda, vi leggo un attimo un passo del mio libro. Pitagora avrebbe intuito che nella musica sono presenti ben determinati intervalli quantitativi. Ascoltando i ritmici colpi di maglio assestati da un fabbro su un'incudine. Possiamo ora apprezzare uno strano detto diffuso tra gli Yakuti della Siberia. Gli Yakuti sono un popolo della Russia siberiana. Il fabbro è il fratello maggiore dello sciamano. Direbbe il mio amico Antonio Bonifacio, sono uccelli dello stesso nido. Il ritmo ci riporta all'inizio della nostra apparente digressione e ci fa meglio apprezzare quanto si diceva della poesia come affare demiurgico. In fondo chi è lo sciamano? Lo sciamano è il medicine man, che ripetendo secondo un rigido formalismo specifiche formule codificate sa guarire, cioè reiscrivere il corpo squilibrato nell'armonia cosmica, restaurandone la condizione normale. Quindi vedete, c'è sempre questa preoccupazione di reiscrivere il soggetto nell'ordine cosmico. La parola ben detta agisce magicamente sulla realtà. La parola magica, sana, in lingua finlandese, è pur creatrice e Väinämöinen, grande personaggio della tradizione finlandese, che è il più alto rappresentante del potere magico, apparisce pur come creatore. Questo è un passo del Comparetti, un po' in italiano arcaico, che è un testo della fine dell'Ottocento, in cui lui appunto parla del Kalevala, di questo grande poema dei popoli finnici, che non è un popolo indoeuropeo peraltro, che si collega alle popolazioni pre-indoeuropee, comunque non indoeuropee. E io proseguo. Come ricorda Nietzsche, nella Gaia Scienza, si attribuiva alla musica il potere di sgravare gli affetti, di purificare l'animo, di ammansire la ferocia animi. Allorché la giusta tensione e l'armonia dell'anima erano andate perdute, si doveva danzare al suono ritmico della musica. Con questa terapia, tra virgolette, Terpandro, che era un sciamano ellenico, pacificò un tumulto. Empedocle, grande filosofo, ma sciamano innanzitutto. Iatromante. Ammansì un delirante. Damone purificò un giovinetto languente d'amore. Il dono che il dio fabbro Kurdalaigon fa ai gemelli narti, qui mi ricollego alla tradizione osseta. Gli osseti sono una popolazione del Caucaso, sono praticamente l'ultima propaggine etnica degli sciti. In epoca tardo antica erano conosciuti come sarmati, comunque erano una popolazione iranica molto legata ai persiani. Il dono che il dio fabbro Kurdalaigon fa ai gemelli narti è un magico flauto d'acciaio che, dotato di voce propria, qui mi ricollego a Dumezil, inizia a cantare invitando a bere la coppa colma di rong. Il rong è un potente idromele, quindi bevanda alcolica. Quindi, assumendo il rong, l'idromele, il potente idromele, e danzando al ritmo del flauto d'acciaio, si arriva nella trance. Ma cos'è la trance? Trance letteralmente è la transizione, cioè il passaggio di stato, il passaggio da una condizione precedente, vista come tendenzialmente inferiore, ad una condizione successiva, superiore. Nella trance ipnotica indotta dal suono ritmico del tamburo, detto cavallo dello sciamano, poiché fatto di pelle equina, e dal kumis, sostanza psicotropa prodotta dal latte del latte fermentato di giumenta, voi sapete che anche il latte ha delle se ben trattato, insomma, delle qualità psicotrope, perché diciamo ogni cosa fermentata, diciamo, ha le sue, sprigiona le proprie qualità alcoliche, quindi poi in definitiva psicotrope. L'anima dello sciamano può addirittura ascendere attraverso una scala con 7 pioli fino a visitare le vie dell'aldilà, il quale è una zona celeste. E qui è interessante perché lo sciamano eschimese, per esempio, si imbatte in una vecchia dal nome Sanguinario, che è chiamata tagliatrice delle interiora. C'è veramente una donna squartatrice. Cioè l'anima si presenta a questa vecchia, che ci ricorda molto le menadi comunque, anche, che tagliano la, no, la vita del... Qui lo sciamano eschimese si imbatte in una vecchia dal nome Sanguinario di tagliatrice dell'interiora, il cui corpo si tende e si dilata come la luna, immagine di morte, dico io, perché ho visto questa immagine e l'ho associata alla luna, quindi immagine di morte vera e propria, perché ci dà per la prima volta il ciclo lunare la nozione del tempo, con i suoi 3/4 aspetti fondamentali, quindi la mutevolezza della luna durante il mese ci dà per la prima volta la nozione del tempo e quindi in definitiva bontà sua della morte. Al riso dell'incauto visitatore non si ride nel regno dei morti. La Moira Menade, dico io, la vecchia, getta il tamburo, afferra il coltello, strappa le interiori del malcapitato e le divora avidamente. E lo fa a pezzi. Lo sciamano che osa ridere nel regno dei morti viene fatto a pezzi, squartato, ridotto in brani dalla donna morte barra luna. Allo stesso modo l'anima che ha superato la prova di Maat, la norma cosmica, viene divorata da Ammut, mostro leonino. Voi sapete che nella tradizione egizia l'anima che non ha superato, bontà sua, la prova della psicostasia, cioè della pesatura dell'anima, si pone da una parte il cuore del defunto e dall'altra Maat, la piuma, che rappresenta però la norma cosmica, la dike, la giustizia. Se il cuore pesa di più, la povera anima viene divorata da Ammut, che è un mostro leonino che io associo alla versione terrifica di Sirio, quindi del caldo estivo soffocante, perché voi sapete che l'anno egizio iniziava a metà luglio, al 19 luglio, la famosa canicola, perciò si chiama canicola, perché sorge la stella Sirio, che divora le anime, in questo caso, che non hanno superato la prova di Maat. E del resto chi è il dio che supervisiona la psicostasia è Anubis dalla testa di sciacallo o comunque essere canino. Si ricollega alla tradizione ellenica, quella egizia, con il cane Cerbero, il famoso cane a tre teste, che dice Esiodo aspetta all'ingresso di Ade l'anima, la fa entrare con grandi feste quando l'anima deve entrare nell'Ade, ma poi non la fa più uscire e ringhia terribilmente, paurosamente, quando l'anima cerca di uscire dall'Ade. E se l'anima cerca di uscire, che fa? Cerbero fa come Ammut, la divora. C'è sempre Esiodo. Quindi noi vediamo sempre uno strettissimo collegamento tra concezioni astrologiche, cosmologiche, astroteologiche e, tra virgolette, metafisiche, religiose, perché poi la religiosità, ragazzi, cioè, prima di tutto è studio del cielo. I Sumeri, che sono i nostri antenati più lontani, perché tutti nei nostri testi scolastici abbiamo studiato come prima civiltà comparsa sulla Terra, i famosi Sumeri. Come dico io all'inizio del mio libro, e come scrivevano i Sumeri Dio? Cioè qual era l'ideogramma di Dio? Come dicevano la parola Dio i Sumeri? Con una stella, addirittura una stella a 8 punte, che poi diventa in verità propriamente la stella di Ishtar, cioè della stella Venere, la stella per antonomasia. Ma Dio innanzitutto è una stella. I popoli accadici che sono venuti dopo, cioè gli assiri e i babilonesi, scrivevano la parola Dio nello stesso modo, ma la pronunciavano diversamente. I sumeri la pronunciavano Dingir. Qui mi ha corretto, per esempio, Anna Bellon, perché io dicevo Dingir. Invece lei mi ha detto, no, è Dingir. Dico, okay. Scusa, l'ho vista solo scritta. Secondo me ci sarebbe anche da fare un discorso sugli intestini che tu hai nominato in questo mito, e il labirinto. Che negli studi cretesi la nascita della danza sacra, la danza delle gru, no? È connesso sempre l'intestino al labirinto, alla danza della gru. Quindi già il fatto stesso di una danza rituale che deve toccare alcuni punti, ritornare al centro, riallontanarsi dal centro per poi riavvicinarsi, tutto questo uno in connessione con questa idea astrale, cioè il microcosmo che deve seguire il macrocosmo. È il percorso del sole. E poi anche questo discorso della dea che in epoca neolitica era visto legata a degli uccelli rapaci, predatori se vogliamo, come te dicevi il mito della dea che divora gli intestini, la menade e tutto quanto. C'è l'idea di questo, per esempio la gru nella danza delle gru cretese, ma per esempio ci sono anche altri casi, mi viene in mente l'isola di Pasqua per esempio. Questa idea del labirinto strettamente connesso a questa sorta di dio uccello che in realtà originariamente era una dea uccello rapace, che poi tra l'altro ritroviamo anche nelle varie leggende delle divinità femminili o di entità divine femminili ornitomorfe che portano nell'aldilà l'iniziato e poi lo riportano di qua, tra cui anche la leggenda moderna insomma della cicogna che porta il bambino nel nostro mondo. Ma questa è una leggenda che nasce da molto lontano, le fanciulle cigno, le stesse arpie, no? Tutte queste entità divine che noi con la nostra mentalità moderna, un po' monoteista, consideriamo strettamente negative senza vedere il ruolo iniziatico di queste entità. In realtà quelle che noi consideriamo magari entità più demoniache, nell'antichità neolitica, addirittura paleolitica, erano visti come gli spiriti iniziatori terrifici, ma proprio perché terrifici permettevano un superamento dello stato umano, un accesso all'aldilà e quindi poi anche un ritorno, perché se uno non supera questa cosa rimane poi bloccato, a quantomeno la sua anima, nell'aldilà. E quindi questo è il simbolo del labirinto, del ritorno al centro, dell'uscita e tutto quanto, insomma. Ma è da molto lontano questo discorso. Ma sai, è sempre il mito dell'eterno ritorno, quindi in una concezione necessariamente ciclica è... comune l'inizio e la fine del cerchio, sempre ritornando a Eraclito. Ma il labirinto, ecco sì, noi lo vediamo per la prima volta rappresentato nel volto di un mostro addirittura sumero accadico, che si chiama Umbaba, che è presente nel mito di Gilgamesh. Non so se avete mai sentito parlare di Gilgamesh e della sua ricerca dell'immortalità, che poi non è in realtà l'immortalità metafisica, ma è più una eterna giovinezza, perché i popoli antichi non avevano il concetto dell'eternità che abbiamo noi. Per loro esiste un tempo indefinito, quindi tutto si svolge nella corporeità, ma corporeità su un piano superiore, che non è però la nostra. Diciamo un eterno essere, un eterno esistere. E Gilgamesh, diciamo, bontà sua, il re di Uruk, si era messo in testa di voler ricercare la vita eterna, e si imbatte a un certo punto in un mostro che i testi sumero-accadici ci restituiscono con il nome di Umbaba, che io personalmente, che è un mostro che ha una faccia labirintica. Avete presente l'intestino umano? Alla faccia dell'intestino umano, quindi con queste volute, questi rivolgimenti, è terrifica. Viene ucciso, peraltro, da Gilgamesh con l'aiuto del suo grande amico Enkidu, il padre Enki, la sua controparte, diciamo, selvatica. Un baba è un simbolo del labirintico percorso del sole. Dice Omero, il labirinto è addirittura un percorso per la danza, è una danza. Ma che cos'è questa danza? Dicevo prima dello stoicheion, cioè il segmento di linea misurato a passi. È sempre una nozione temporale. In estrema sintesi è il percorso labirintico del sole. Non so se voi avete mai utilizzato uno di questi programmi Stellarium 2.0, eccetera. Se avete mandato in accelerazione il sole, quando vedete il sole sullo sfondo del desktop, durante l'anno fa questo movimento qui, la lemniscata, o il percorso dell'infinito. Ed è quello che i nostri popoli antichi avevano visto. Però pensate, noi lo facciamo con un programma, insomma, tecnologico, che ci restituisce subito questa immagine, ma loro, quanti secoli avevano dovuto durare per giungere a questa visione? Eppure lo hanno fatto, quindi pensate per loro il tempo che cosa significava. Significava tutto, per noi non significa nulla. Per i popoli antichi il tempo era il tutto. Tornando a Humbaba, quindi questa faccia, diciamo, labirintica da intestino. Personalmente io credo che Humbaba si ricolleghi a poi successivamente ad una dea che viene nominata nei frammenti ugaritici, anche nei frammenti titi, come Kubaba, cioè una dea, sposa peraltro di Shalim sul Manu, attenzione perché qui ci sono dei rapporti molto interessanti che poi tenterò di sviscerare in un mio secondo volume che sto preparando. Shalim sul Manu, cioè il pianeta Saturno, la sposa del pianeta Saturno era questa dea, che nell'epopea di Gilgamesh è un mostro dalla faccia labirintica, ma che poi diventa la Kubaba, dea infera, assimilabile alla Persefone, poi nella versione ellenica, ma che poi diventa addirittura a sua volta la Cibele, Kubaba, Kubileia, in lingua indoeuropea, perché i Frigi erano indoeuropei, quindi riprendono dagli Ittiti che abitavano le loro stesse sedi secoli prima, nell'Anatolia, riprendono la Kubaba, la rendono Kubileia. Quando arrivano i greci diventa la Cybele, la Cibele, che è, io tenterò almeno di dimostrare che la divinità primordiale dei popoli neolitici pre-indoeuropei era addirittura un essere bisessuato, cioè un essere androgino, e che noi vediamo per esempio benissimo nel mito di Cibele. Perché Cibele, nella mitologia frigia, all'inizio era un mostro bisessuato, che si chiamava Agdistis, ricollegato all'Aditi, cioè la terra indoeuropea, che viene divisa in due, sempre da Zeus, questo famoso Zeus, che si pone sempre come ordinatore e che rompe i coglioni, poi a un certo punto, voglio dire, comunque alla fine si inserisce sempre. Da una parte quindi crea la dea Cibele, dall'altra crea Attis, il suo sposo. No? Ma all'inizio era una divinità androgina, quindi al contempo maschile e femminile, attenzione. I popoli antichi non avevano questa netta distinzione tra il maschile e il femminile, avevano la coscienza del fatto che il maschile e il femminile, come principi comunque distinti, si riunissero necessariamente nell'essere uno. Come ho detto prima, non c'è la coscienza dell'unità senza la coscienza primaria della dualità, ma il due si riunisce nell'uno. Non è l'uno che produce il due, è il due che produce l'uno. Attenzione. Noi lo vediamo benissimo in questi miti, nel mito della Cibele Frigia, no? E addirittura i sacerdoti dei miti, che poi erano misterici poi alla fine, nell'età greco-romana di Cibele e Attis, erano officiati da una casta sacerdotale nota come i Galli, da non confondere con la popolazione gallica, è un termine semitico, accadico, è gallu, sacerdote, urigallu, nominativo sacerdotale. Il sacerdote principale di Marduk, per esempio, era noto come l'urigallu, e i galli, sacerdoti di Cibele, si ricollegano a quella etimologia. Da una parte quindi viene scisso quest'essere androgeno primordiale, che poi ha delle eco anche in Platone, perché bontà sua ci racconta nel Simposio del fatto che gli esseri umani erano, no, rotondi, cioè perfetti, quindi al contempo maschili e femminili, quindi bastavano di per se stessi, ma subiscono una scissione. E questa scissione drammatica, sentita sempre come drammatica scissione del tempo innanzitutto, poi dell'essere, i gemelli primordiali di cui parlo, all'inizio ci sono sempre due esseri, due gemelli, che si scindono, che fanno la lotta tra loro, di solito sono fratelli, gemelli, insomma. E che cos'è? È la scissione del tempo aureo primordiale, cioè del fatto che l'essere fosse uno all'inizio. E nei misteri di Cibele e Attis noi lo vediamo bene. Perché da una parte noi poi troviamo Cibele, la dea nera rappresentata da una pietra nera. Voi conoscete la pietra nera della Kaaba, no? La Hagar al-Aswad, di cui parlano i musulmani, e che Maometto non osò toccare. Perché lì avrebbe veramente creato la rivoluzione. L'Islam non sarebbe mai sorto se Maometto avesse messo mano alla pietra nera. Secondo alcuni era quella, la pietra nera di Cibele, che poi fu portata fuori dall'impero romano, divenuto cristiano. Però io su questa teoria non, insomma, la prendo con le pinze, però insomma, è una teoria. Che poi nel mondo antico esistono molte pietre nere, simbolo appunto di questa divinità androgina primordiale, di questo essere che è al contempo fallo e al contempo vagina, perché sotto la pietra c'è sempre un fiume che scorre, ci sono delle acque che scorrono, e quindi questo fallo si pone sempre in posizione contenitiva, assuntiva rispetto a questo fiume sotterraneo. Addirittura sotto la Kaaba, ci dicono le fonti islamiche dei primi secoli, scorreva un fiume, cioè la pietra nera si pone come tappo di questo fiume sotterraneo, delle acque infere. A Gerusalemme è lo stesso, a Gerusalemme è uguale, perché Mecca e Gerusalemme non a caso si trovano in collegamento strettissimo. Perché fanno guerra, secondo voi, i musulmani e gli ebrei? Perché si rispecchiano l'uno nell'altro, lo vedono che sono gli stessi. Sotto il Tempio di Gerusalemme scorreva un fiume uguale, in una visione di Isaia ci dice sotto le acque del Tempio scorre un fiume. E lì era presente un'altra pietra di cui la Bibbia però non ci parla, perché obiettivamente gli autori biblici la vedevano come un frammento troppo chiaro di paganesimo, però ci deriva dalle fonti extra bibliche, si chiamava Leben Shetia, di cui parlo anche nel mio libro. Leben Shetia, di forma quadrata peraltro, era nient'altro che il basamento dell'Arca dell'Alleanza. Qui secondo te si può parlare di una rimozione a livello rimozione di determinate intenzionale, concezioni divine, diciamo intenzionale, così. Sì. Cioè nel senso, alla fine quella è la cosiddetta terra santa dove nascono i monoteismi, e secondo i tuoi studi e le tue teorie di Levi che hai tradotto, vanno sempre a richiamarsi a questa forma cubica nera che è connessa alla dea Cibele, alla dea neolitica eccetera. Quindi a me pare che ci sia una sorta di rimozione di una concezione divina, e rimane solo una concezione di possesso di questo cubo nero della Mecca o del, non so, il cubo nero che hanno... Sì, non più compreso. E quindi appunto, non essendo più compreso da più di 2000 anni, questo ha portato anche a uno snaturamento della concezione del divino, e quindi anche tutto questo discorso della terra santa da possedere, tutto questo che è completamente contro iniziatico, contro è contro tradizionale, insomma. Contro quella concezione del divino che ovviamente era, come tu dici, omnicomprensiva, molto più complessa, che non aveva a che fare solo con la relazione con la divinità come padrone schiavo. Io credo che fosse un essere androgino. Posso andare un attimo in toilette? Ma come no? Come siamo, ci vediamo tra poco. Quei tempi stiamo parlando troppo. Stiamo annoiando un po' il pubblico, non lo so. Se qualcuno vuole intervenire intanto con qualche domanda, osservazione. Pensavo un po' quello che tu rispetto al micro e macro, volendo andare a scoprire queste scienze che parte di primordio della storia umana, anche una forma di esteriorizzazione necessaria, che anche quello se è stato creare la sua libertà di connessione. Io sono convinto, per riassumere molto velocemente, che quelli che noi chiamiamo i politeismi, cioè con varie divinità preposte a determinate funzioni, in una visione originaria non si volgevano mai a una sola divinità, si volgevano sempre all'adorazione della divinità nel suo aspetto complessivo, nelle sue varie funzioni, e quindi di conseguenza queste funzioni potevano essere planetarie, legate a vari giorni della settimana, a vari metalli, a vari aromi da bruciare. Era una visione appunto complessa e con le varie aspetti della divinità che si intersecavano tra loro. Poi alcuni popoli, ovviamente avvicinandosi all'era propriamente storica, iniziano ad adorare solo determinate divinità. E allora secondo me da lì inizia il distacco anche animico, sottile, dal complesso, cioè dalla concezione del divino complessa. E questo secondo me è il discorso del Medio Oriente, cioè legandosi solo a determinati aspetti della divinità, questo forma anche una specie di complesso ricorsivo che avvelena anche in un certo senso l'anima e anche la collettività, perché appunto si guarda il particolare e non il generale, e ovviamente questo procedimento della trasformazione dei culti deriva sempre da una nascita di una classe sacerdotale che dice al popolo chi e cosa adorare, ha un distacco dalle varie emanazioni divine in tutte le sue forme, e quindi una semplificazione, perché il Dio è quella roba lì e tutto quello che non è quello non è più Dio, e diventa il demonio, il diavolo, no? E quindi viene contrastato. Questo secondo me porta appunto a una separazione sia a livello collettivo ma anche a livello individuale. Pensiamo anche per esempio al Medioevo europeo, cristiano, perché l'alchimia, l'ermetismo sono stati così combattuti dalla Chiesa, dall'Inquisizione, proprio perché cercavano di riportare a una visione cosmica e complessa la fede è un termine forse un po' sbagliato, il culto, la religione, il sacro. Io penso che punto centrale sia quello, da cui si può anche capire la guerra in Medio Oriente, così, questo tipo di cui parlava anche lui. Ma questo è un argomento veramente scottante. Allora, nel mio libro parlo ampiamente dei culti saturnini, insomma, di Mecca e di Gerusalemme. Ma del resto i termini stessi, arabo-ebreo, derivano da una stessa fonte accadica, perché gli Assiri, che erano un grande popolo mesopotamico della fine dell'età del bronzo, li definiva con lo stesso termine, Abiru. Abiru significa sia arabo che ebreo, cioè coloro che vagano nel deserto. Tant'è vero che gli Assiri poi li raffiguravano molto spesso in groppa ai loro cammelli, no? Quindi sostanzialmente sono lo stesso popolo. Gli Assiri, popolo semitico, ma del resto come gli stessi ebrei e gli stessi arabi, sono popoli semitici e parlano lingue semitiche, tant'è vero che il buon Allah degli arabi corrisponde all'Elohim o Eloah degli ebrei o allo stesso El degli assiri, è sempre la stessa radice semitica, Ilu. Tanto è vero che Allah non è altro che la contrazione di Al-Ilah, cioè il Dio, Il-Ha. E gli assiri dicevano Ilu, i babilonesi anche Ilu. I babilonesi e gli assiri parlavano la lingua accadica, ora l'assiro e il babilonese sono dialetti dell'accadico, ma sono sempre lingue semitiche. Quindi parlavo prima del rituale dei galli. E qual era il rituale dei galli, che non c'entrano niente sempre con i popoli celti? L'evirazione. Cioè, durante il rituale della dea Cibele di Attis, al culmine del rituale dei sacerdoti galli, loro praticamente sperimentavano una vera e propria evirazione rituale. Quindi che cosa facevano? Ridiventavano androgini, perché si volevano ricollegare alla gdistis primordiale, cioè all'essere prima della scissione nelle due entità maschile e femminile, Cibele e Attis. Poi ripreso anche da Lovecraft, I topi nel muro, ricollegato a Nyarlathotep, la lingua di Frigia, orribili rituali nella lingua di Frigia. E però qui vediamo una cosa molto interessante, cioè l'emersione a lunghi intervalli di tempo di un concetto, il concetto dell'unità fondamentale dell'essere, l'Urano stellato ad esempio, che viene evirato anche lui, perché era androgino pure lui, è bontà sua all'inizio, il cielo era androgino. E da una parte chi si crea? Si crea Urano, Uranos, e dall'altro Gaia, la Terra, no? Ma dopo. Per opera di chi? Di Cronos, del tempo. Colui che divide Cronos da una radice ellenica, reo, scorrere. Il tempo è quello che scorre, che porta via tutte le cose. Rea pure la consorte. Anche Rea, infatti, esatto. Quindi Cronos e Rea come i due sì. Dati della divinità androgena. Eh sì, infatti, è che dico anch'io all'inizio, no? Del capitolo su Rea, no? Perché faccio... Però forse andiamo un po' nel particolare qua, dobbiamo rimanere in un discorso più generale forse. Sì, no, c'è un capitolo intero dedicato alla divinità femminile primordiale, comunque lo trovate, no? Rea. E beh, insomma, ragazzi, il fatto è che si sta combattendo la battaglia definitiva. Nel senso che, no, non che sia una battaglia fenomenica, perché, diciamo, come diceva René Guénon, bontà sua, i fenomeni in se stessi non significano niente. Ma a livello spirituale c'è un grande cambiamento. Perché a livello astrologico, per esempio, adesso, io parlo, non mi fraintendete, io parlo di astrologia anche negli stessi termini dell'astronomia, perché gli antichi non conoscevano questa distinzione. Questa è una distinzione che abbiamo fatto noi, diciamo, al principio dell'era scientifica. Per gli antichi non esiste astrologia o astronomia, esiste l'astrologia, cioè il discorso sugli astri e... Poi noi l'abbiamo divisa. Noi dobbiamo recuperare un attimo la visione degli antichi, che mi rendo conto è difficile, perché ho parlato anche del concetto di tempo, della visione del tempo, della visualizzazione addirittura del tempo, che è difficile, è veramente difficile. Cioè, io mi rendo conto, cerco di sviscerarlo nel libro, ma mi rendo conto che è difficile. Vedere il tempo, vedere le forme geometriche che balenano nell'ordine del tempo, cioè quest'ordine però è meraviglioso, cioè l'ordine del tempo che ci restituisce le figure geometriche. Cioè le figure geometriche sono il modo in cui noi vediamo il tempo, che è meraviglioso, ma sempre come con l'ausilio delle bevande psicotrope. Alza la mano, sì? Visto che stiamo parlando anche di astrologia, in senso ciclico, quindi noi abbiamo visto, tu hai parlato dell'età del toro, dell'età dell'ariete, poi quella dei pesci. Adesso sembra che stiamo entrando, dicono, nella famosa età dell'acquario, no? Sì. Io volevo chiedere, ma cioè, siamo in una zona di confine. Siamo in una zona di confine, io non ne so, però mi sembra di aver capito che più o meno ogni età, corrispondendo al segno zodiacale, dà un imprinting comunque, una... Assolutamente sì. Puoi parlare un po' di questo anche in vista, insomma, della differenza tra pesci e acquario, che ne so. Sì, c'è nel mio ultimo capitolo in cui cerco di fare una prospettiva, insomma, di quello che saranno le... dico prospettive cosmologiche attuali nell'ultimo capitolo, no? Questo è un discorso abbastanza spinoso, nel senso che ci troviamo nel pieno delle acque, sono costellazioni completamente acquatiche, siamo nel fondo delle acque. Capricorno, la capra pesce, Enki, Saturno, pesci, il fiotto dell'acquario, anche lì la stella principale è Fomalhaut, che il Mulapin in calce al mio libro spiego secondo i babilonesi è ancora una rappresentazione di Enki e Saturno. Stiamo per passare dai pesci all'acquario. L'acquario, secondo il Mulapin, mi perdonerete se mi autocito così, in lingua... Cos'è però. Allora, il Mulapin è una un compendio astrologico di epoca babilonese, però scritto in lingua sumera, perché in epoca babilonese Assira la lingua liturgica, la lingua rituale, la lingua colta rimaneva sempre il sumero, anche se era lingua morta da secoli, però la casta sacerdotale Assira e babilonese parlava, scriveva in sumero. L'acquario, Gu-La, in lingua sumera, il grande, l'uomo grande, Ea, ancora Cronos-Saturno, questa è l'epoca del diluvio, ragazzi, ma non dovete intendere il diluvio in senso materiale, dovete, ragazzi, vi dovete liberare dall'idea materialistica delle cose che accadono, la pioggia e i cambiamenti climatici, non c'entra un cazzo di niente. Anche un po' l'idea New Age, sì, l'età dell'acquario, sì, l'età delle, sì, no, queste robe che a volte cagate, si leggono, sì. Passaggio alla quinta dimensione, robe assurde. Allora, gli antichi, cioè, non ragionavano così. No, assolutamente. Siamo noi che siamo materialisti e scientisti e abbiamo poi trasferito nelle conoscenze antiche la nostra visione materialistica, empiristica delle cose, che abbiamo fatto un casino di proporzioni bibliche, veramente. Tutto si svolge a livello meramente spirituale e astrologico, ma perché la nostra anima è un frammento delle stelle. E quindi si riporta sempre al cielo. I cambiamenti che avvengono a livello celeste sono i cambiamenti che avvengono dentro di noi, ma non in noi, nel senso l'umanità, che non ha nessun senso. In quanto io, Andrea, in quanto Marco, in quanto Carolina, in quanto il ragazzo qui in prima fila, cioè noi siamo frammenti degli astri, delle stelle, quindi del tempo, quindi i cambiamenti che avvengono a livello astrale avvengono dentro di noi. Il diluvio che ci aspetta, ovviamente, perché questa è l'era dell'acquario. Siamo, allora, astrologicamente adesso siamo posti in una zona di confine tra i pesci e l'acquario, una zona indefinibile, in cui il vecchio culto delle religioni abramitiche tramonterà. Mancano ancora 200 anni però, per la verità. Quindi noi non lo vedremo, bontà nostra. Vedranno i nostri successori. Ma se posso fare una previsione, non come Isaia e Geremia che parlavano ex post, posso fare una previsione ex ante. Ecco, sperimenteremo un diluvio, lo stiamo già sperimentando per la verità, diluvio spirituale in cui i vecchi culti verranno completamente azzerati, ma anche il nostro stesso modo di pensare, perché il nostro modo di pensare progressivo, progressista, del tempo indeterminato, del tempo indefinito, del tempo che non è circolare, del tempo che va verso un orizzonte della storia non ben definito, non è altro che la secolarizzazione del tempo cristiano, come ben dice Giorgio de Santillana, il maestro incomparabile, nella sua opera pregna veramente di significati. E che cos'è il tempo cristiano? È il tempo che prepara allo scientismo, quindi il cambiamento climatico, sono tutte cose che ai nostri popoli antichi non interessavano. Sì, piove, vabbè, piove, sì. C'è un po' il periodo di siccità, sì. E gli dèi evidentemente hanno stabilito così. Ma il vero diluvio è quello interiore. Il vero diluvio è quello dell'anima, è quello che va dentro di noi, che interessa noi. Non è il diluvio della pioggia materiale. I testi antichi sono allegorici, il linguaggio degli antichi è allegorico, è immaginifico. Non è materialista, noi siamo materialisti con la nostra visione del cazzo, scusate, che ci impedisce di vedere la realtà delle cose. Andate oltre il fenomeno, bontà nostra. Andiamo oltre i fenomeni. Faino, dal greco, è apparenza, è fantasma. Nelle parole si cela la realtà delle cose. C'è poco da fare. Ma come facciamo? È chiaro che se stiamo su Sky TG 24, 24 ore al giorno a vedere, sì, qui, là, il climate change, come si chiama? Greta. A me viene in mente. Quell'altro mostro. Io sono stato in India quest'estate, in Tibet, in Nepal, e un taxista che incontrai mi disse una cosa che mi ha richiamato quello che hai detto te. Uno che studiava i Veda, tra l'altro, quindi... Mi disse, la cosa peggiore che può fare, lui se lo ricorderà forse, che era anche lui con me, la cosa peggiore che fa l'uomo è dire, oddio piove, oddio fa caldo, oddio c'è questo, oddio c'è l'altro. Non sai quello che lo dico. È una saggezza incredibile da un taxista, cioè voglio dire, non è un sacerdote di un tempio. E questo cosa vuol dire appunto? Legarsi al fenomeno e avvelenarsi l'anima col fenomeno appunto, in sé. Appunto. E non vedere anche qui il complesso, esatto. Il cosmos in generale. Torniamo sempre lì, vedi. Però vedi come in alcuni paesi, popoli, eccetera, che magari noi dall'alto. Però vedi, nostra, infatti loro sono rimasti ancorati a. Noi consideriamo magari primitivi, eccetera. E a volte hanno delle intuizioni, o comunque comprendono, hanno una forma mentis che permette di comprendere delle cose di questo tipo che a noi sembrano. Cioè, noi magari neanche capiamo, diciamo, ma che vuol dire lamentarsi che piove? È ovvio che ci lamentiamo, piove, ci lamentiamo. E lì è tutto un discorso invece molto più complesso di forma mentis, di non fissarsi sul fenomeno ma di vedere appunto il quadro generale. Ma sai, adesso divagando un attimo, il mio maestro di yoga di cui ti ho parlato magari qualche volta, no? Marcello, no? Dice, sai, io vado in India spesso così, gli indiani mi dicono una cosa molto semplice, Tu stai in Europa, vabbè, stai lì. Poi vieni in India, a Goa nello specifico. Quella è una telefonata diretta con Dio. Qui noi abbiamo la telefonata diretta con Dio. Semplice. Con tutte le implicazioni che questa cosa ha, no? Certo. Noi siamo lontani dalla divinità, noi siamo lontani dallo spirito, anche se siamo spiriti, prima di tutto, ma dobbiamo riaccendere questa scintilla dentro di noi. Dobbiamo smetterla di ascoltare le farneticazioni pseudoscientifiche di una tradizione, di un'ideologia morta e sepolta. Siamo alla fine dell'era dei pesci, ragazzi, ci apprestiamo all'era dell'acquario, che sarà l'epoca del diluvio. Dalla brocca d'acqua dell'acquario, che è Enki è a Saturno, uscirà un fiotto d'acqua devastante, ma non è materiale, non è fenomeno. Ma sai, poi i greci dicevano aer, però aer ha una molteplicità di significati, il primo dei quali è effettivamente aria, atmosfera, ma a me piace invece, come dico anche nel capitolo del mio libro dedicato a Okeanos, a Oceano, dice il papiro di Derveni, che è un papiro orfico ritrovato in Macedonia nel IV secolo avanti Cristo. Diciamo, il papiro di Derveni è una glossa, cioè una spiegazione fatta da un maestro iniziatore nei confronti dei suoi allievi iniziati, quindi è una glossa a quello che loro dovevano comprendere, dovevano capire delle immagini che sarebbero andati a vivere, perché l'iniziazione non si studia, si vive, non si pronuncia mai la vera iniziazione, non si spiega, si fa. Io dico, l'iniziazione non si dice, si fa. E dice il papiro di Derveni, scusate, ecco qua, quinto capitolo, tois de ortos gignoscusin eudelon oiti okeanos estin o aer, per coloro che hanno la retta conoscenza. La retta conoscenza, ortos, no? Ortos, ortogonale, la dritta. È assolutamente chiaro, eudolon, che okeanos, oceano, estino aer, io dico è il cielo. È l'aria superiore, ma non l'aria, l'atmosfera così materiale, il cielo vero e proprio. Ma coloro che hanno la retta conoscenza sapranno che il cielo è Okeanos, siamo immersi in questo Okeanos, che adesso si agiterà, comporterà il diluvio. Diamo il benvenuto anche ad Alessandro Gabetta, comunque sì. No, poi secondo me c'è da menzionare il fatto di acque superiori e acque inferiori, che è una cosa che si trova sempre nelle cosmogonie. Eh beh, certo. E che magari può sembrare bizzarro una mentalità moderna, però le acque superiori appunto... Ma sai, questo l'ha spiegato benissimo Emanuela Chiavarelli, che secondo me dà proprio la spiegazione, cioè la nostra mentalità moderna tende a distinguere il prima e il dopo, il sopra e il sotto, la destra e la sinistra, gli inferi e il cielo. Per gli antichi queste distinzioni, queste differenze erano molto relative. La mentalità degli antichi è prelogica, dice la mia maestra Emanuela Chiavarelli. Prelogica, cioè viene in un momento anteriore alla logica. Quindi, come dicevano i Sumeri, il Kur, gli inferi, che noi associeremmo a un luogo che sta sotto, no? Per loro però è una montagna. Il Kur, per i Sumeri e poi per i Babilonesi, gli Assiri. È una montagna, è la montagna degli inferi. Ma come si conciliano gli inferi che stanno sotto e la montagna che tende verso l'alto, verso il cielo? Com'è possibile? C'è qualcosa che noi non abbiamo capito, che non comprendiamo, perché la nostra mentalità analitica, la nostra mentalità di moderni che spaccano il capello in quattro e che hanno una mentalità post-cartesiana, fondamentalmente, che Cartesio è quello che distingue poi spirito e corpo, con tutte le implicazioni che poi ne vengono, ma spirito e corpo sono una stessa cosa prima. Così come gli inferi e il cielo sono la stessa cosa. Gli ebrei, ora mi ricollego agli ebrei, no? Hanno una parola molto interessante da questo punto di vista. Per arrivare ad avere la visione della Merkava, cioè del carro divino, voi sapete che Yahweh è detto cavaliere delle nuvole, epiteto uguale a quello di Baal, per esempio. No? Baal, Yahweh assorbe molti tratti di Baal, anche se è il suo arcinemico poi nella Bibbia. Ma Baal non è un dio di poco momento, eh? Quello che noi conosciamo come Baal in realtà era il dio Adad. Baal è solo un epiteto, significa signore. Ma quel dio che viene definito Baal è Adad, il dio della tempesta dei popoli cananei, semitici occidentali. È Adad, il figlio di Enlil, che definito Baal, signore, come Adonai, è lo stesso epiteto corrispondente, signore. Ma quel dio lì che noi definiamo Baal e Adad, è corrispondente al sumero Ishkur, dio della tempesta e dei fenomeni atmosferici. Cavaliere delle nuvole, quindi stesso epiteto con Yahweh. E per avere la visione della Merkavah, il Talmud dice, il termine che il Talmud utilizza per avere la visione della Merkavah, che quindi noi immagineremmo, no, posta nel cielo, no, in alto, sul livello superiore. Il termine che gli ebrei utilizzano, che i talmudisti utilizzano, è Yarad, discendere. Corrispondente a Yarad è un sostantivo che è Yerida, discesa. Come si concilia? Cioè Dio l'Altissimo, El Elyon, il Dio che sta sopra di tutti. Allora a me viene in mente un discorso sciamanico che culture sciamaniche si dice che per ascendere la famosa scala dei sette pioli, eccetera, celeste, bisogna discendere. Appunto, quando lo sciamano inizia a suonare il tamburo, questo viene sempre descritto come un'immersione nelle acque sotterranee, nelle acque subacquee. E questo concetto si ritrova pure, che può sembrare un'esagerazione, ma è così, nella Divina Commedia. Il fatto che per ascendere ai livelli celesti bisogna prima passare da quelli interiori. Esatto. E questa è una cosa che ovviamente, se lo dici a un cristiano, un monoteista, insomma, dice, ma come scendere all'inferno per andare in paradiso? Cazzo vuol dire? Oppure lo stesso Dante l'aveva fatto. Sono delle conoscenze che ovviamente hanno a che fare anche con l'esperienza microcosmica e anche qui ancora una volta psichedelica, nel senso di immergersi nelle proprie profondità per poter ascendere a livelli sovrapersonali che vanno oltre l'individuo, che ancora una volta qui si trova in testi come quello di Dante, ma anche come testi persiani già dell'Islam, però non tecnicamente islamici o che appunto persiani eccetera, ma che poi troviamo, se noi andiamo a studiare le culture sciamaniche, questo già era conosciuto migliaia di anni fa. Il discorso è che appunto le ipotesi recenti è che fin dal neolitico, quantomeno addirittura alcuni dicono dal paleolitico, col discorso del culto delle caverne, dell'incubazio, tutte queste cose. Ma pensa che la caverna è un luogo tendenzialmente oscuro, sotterraneo, no? E però quei dipinti ci rappresentano il cielo. Quindi abbiamo anche qui una specie di contraddizione. In questo luogo infero, sotterraneo, oscuro, notturno, infero, abbiamo una rappresentazione del cielo. Cioè il cielo è, come diceva Leo Frobenius addirittura ben prima, l'uomo preistorico aveva assunto la caverna a rappresentazione del cielo notturno. Quindi uscendo fuori al cielo sotto la volta stellata è come se lui fosse già nella caverna. Lasciate stare il cielo diurno che non c'entra niente, perché l'Urano stellato dei misteri orfici è appunto Urano stellato, cioè il cielo di notte, il cielo notturno. Non è il cielo diurno, quello è il cielo delle iniziazioni. È lì che avviene l'iniziazione, addirittura poi con una ricollegandosi alle lingue semitiche mesopotamiche, Giovanni Semerano dice mistero, mysteros, mistero. È una parola che deriva dall'accadico, dalla lingua accadica, musu, musitu, notte. È ciò che avviene di notte. L'iniziazione è ciò che avviene nel segreto. Musicale però, sempre di notte, perché le stelle si vedono di notte. A me viene in mente anche quest'altra cosa. Quando andai in Messico anni fa e feci una capanna sudatoria, un rito di capanna sudatoria, anche qui c'è tutta una simbologia che magari il turista occidentale non riesce a comprendere. C'è il fuoco centrale nella capanna che è sotterranea, uno entra nella capanna e va sottoterra. C'è il fuoco dentro la capanna e quello fuori, che sono come i due fulcri. Poi c'è l'esperienza di immersione appunto nella capanna che vai sottoterra. C'è il canto con i canti ai quattro elementi, la purificazione con i fumi e con le acque, che sono le acque superiori e le acque inferiori, e poi alla fine del rito, quando esci e sei fatto a nuovo praticamente, devi fare il bagno in questo xenote, che è una grotta sotterranea, e anche qui la grotta è come il cielo, perché uno esce dalla capanna e c'è il cielo notturno, e poi va nello xenote, che è la grotta, e fai il bagno nelle acque sotterranee. E ci sono quindi dei richiami che secondo me evidentemente hanno a che vedere con un mondo esperienziale che l'individuo sperimenta prima durante il rito della capanna sudatoria. È l'esperienza prelogica. E poi proprio prelogica. Al di fuori del rito c'è una purificazione in questa caverna sotterranea che è tutto... Ci sono dei rimandi simbolici ai vari elementi del rito, insomma, le varie fasi del rito. Ma è sempre quell'esperienza prelogica o antilogica a cui accennavo, insomma. Dobbiamo cercare, come dico anche proprio all'inizio del mio libro, no? Dico, dobbiamo cercare di calarci nella visione intellettuale degli antichi. Cioè non è possibile che noi rimaniamo... diciamo fissi, pietrificati nella nostra visione, nella nostra visuale che è scientista, logico, analitica, distintiva, eccetera, eccetera, quello che volete voi. Bisogna capire che la mentalità, la mente degli antichi era assolutamente diversa. Cioè la mente degli antichi ragionava in modo diverso. Allora voi sognate. È nel sogno che noi abbiamo un saggio di quella che era veramente la nostra mentalità primordiale. Prima che noi subissimo tutte le sovrastrutture degli insegnamenti, insomma, poi della scuola, della storia umana, alla fine. Voglio dire, quella mentalità noi la sperimentiamo prima di tutto nel sogno. Quindi dobbiamo cercare di calarci in quella visione. Quindi se vogliamo conoscere vogliamo conoscere la mentalità arcaica, che è la mentalità degli antichi, non possiamo fare più rigide distinzioni tra questo e quello, il posacenere o il bicchiere, il microfono. Tutto è uno. E quindi noi siamo... creazioni di noi stessi. Noi partoriamo noi stessi, quindi noi siamo l'uno. E questa è in estrema sintesi quella che è l'estrema conoscenza. Sì, ma non si conosce con la mentalità analitica, se ne fa esperienza, si conosce. Io l'ho avuta, ma non posso, diciamo, esprimerla con linguaggio logico-verbalistico, perché il logico-verbalismo è limitato. È una parte, è l'ultima venuta delle nostre facoltà mentali, è la razionalità, ma ratio è razionalità, ratio è parte, è una parte minima, la ratio, razionalità. Vedete che nelle parole c'è sempre però è il... Razione, tu è dici, una razione. È una parte, la parte minima, nelle parole c'è sempre però l'indicazione di quella che è la realtà, perché... Poi il linguaggio non è che sorge così dall'utilità, come ci hanno detto, diciamo, i nostri scienziati moderni. Cioè il linguaggio innanzitutto è canto, il linguaggio è ritmo, il linguaggio è musica, il linguaggio è il verso dell'animale. Sì. Prego. Cioè non mi ha dato chiaro questa contrapposizione col cristianesimo. Adesso dicevi del verbo ed è una dimensione del cristianesimo originale, ma poi soprattutto c'è cioè, il cristianesimo, quell'introspezione di cui parli tu, che scendere in se stessi porta al divino, è qualcosa che viene proprio incarnato nell'umiliazione, è qualcosa che poi non viene visto sempre bene, quindi non mi è chiaro, cioè capisco... il discorso storico che c'è dietro, cioè di un arcaico che si è venuto a perdere per questa contrapposizione tra il figlio, il padre, il divino e l'umano, però credo che comunque il cristianesimo abbia portato avanti un po' di quello spirito. Ma sai, siamo sempre a livello però esoterico, ecco, voglio dire, non è che per carità, non ci siano dei discorsi molto interessanti dal loro punto di vista nelle religioni, ecco, abramitiche, perché bontà loro, insomma, l'ebraismo, il cristianesimo, l'islam, comunque presentano comunque dei tratti molto interessanti. Non è che, voglio dire, rigetto così sic et simpliciter tutto di quelle tradizioni, però quello che loro di interessante da questo punto di vista dicono si pone sempre sul lato iniziatico, sul lato esoterico. Quindi è chiaro che ci sono tanti discorsi molto interessanti da fare sul padre, il figlio, lo spirito, che poi si ricollegano peraltro anche ai concetti neoplatonici dell'uno, dell'intelletto e dell'anima, quindi quella prima tripartizione del neoplatonismo, prima teorizzata da Plotino, che poi, parliamoci chiaro, insomma, il cristianesimo recupera moltissimo dall'insegnamento neoplatonico, però anche lì il problema di queste tradizioni che io chiamo abramitiche è una sostanziale disvalore del corpo e del cosmo. Io dicevo all'inizio, bisogna conoscere il cosmo. Bisogna assolutamente avere conoscenza del cosmo, perché siamo noi stessi il cosmo, noi siamo il microcosmo del macrocosmo. Però non si può arrivare a, come dicono le religioni abramitiche, rifiutiamo il corpo, rifiutiamo il cosmo, rifiutiamo l'essere, rifiutiamo l'universo, perché esiste soltanto lo spirito, la metafisica, l'anima, eccetera. Posso? Sì. Secondo me il cristianesimo ha avuto degli elementi molto connessi a quanto appunto Andrea discuteva fino al Medioevo. in cui c'erano delle feste cattoliche cristiane, soprattutto nelle campagne, insomma, negli ambienti più rurali, che si rifacevano ai elementi pre-cristiani, quindi che magari comprendevano, non so, la benedizione degli animali, la benedizione dei campi, cose connesse a un cristianesimo cosmico, per così dire, che è stato in voga fino alla pre-modernità praticamente, o anche addirittura quando leggiamo delle cosiddette feste dei folli, quindi addirittura noi leggiamo che in chiesa si ballava, si danzava, la festa dell'asino, infatti c'è tutto un simbolismo, però nel senso la chiesa in quei periodi, ancora fino al 1600-1700, era un luogo di ritrovo anche comunitario, in cui addirittura c'erano delle feste in cui si ballava, ci sono determinati labirinti sul pavimento di alcune chiese che venivano utilizzati a questi scopi, e c'era una visione non così cristallizzata e così gerarchica, col sacerdote che faceva il sermone, la predica e tutto quanto, ma era un rito collettivo vero e proprio. Anche le stesse cattedrali cristiane, per esempio, soprattutto quelle famose francesi edificate sulla costellazione della Vergine, studi di Fulcanelli, si rifanno dei principi cosmici, il fatto che siano indirizzate a seconda di solstizi, equinozi e tutto quanto. Il problema è proprio il fatto che più questa... Che poi non date retta a quelli che dicono gli equinozi e i solstizi mutano, cioè mutano le costellazioni sullo sfondo, cioè il sole batte sempre alla stessa parte. Cioè il discorso è sempre quello, non è tanto il cristianesimo e il cattolicesimo in sé, che quando una tradizione cosiddetta sacrale religiosa si cristallizza in una gerarchia che definisce determinate regole, questo vale anche per esempio per i culti greco-romani di Stato, cioè... Quando secondo me questo Ma è interessante il fatto che comunque il cristianesimo... Non è il cristianesimo in sé, secondo me dobbiamo specificare effettivamente questo. Allora, il cristianesimo è l'era dei pesci. Partiamo da questo presupposto. L'Apocalisse attribuita a San Giovanni, grande sciamano anche lui... E ci ha lasciato questo testo, peraltro canonico per i cattolici, ma non per gli ortodossi. Gli ortodossi rifiutano l'Apocalisse. È apocrifo per gli ortodossi. Però, da questo punto di vista, il cristianesimo si pone come, diciamo, depositaria degli ultimi misteri astrologici dell'era dei pesci. Del resto la stella di Betlemme che cos'è? È una grande congiunzione tra i pianeti Giove e Saturno, come spiego nel mio libro. Il famoso tetramorfo dei quattro evangelisti, sì, che sono le quattro costellazioni. Le quattro costellazioni. Ci sono ovviamente dei rimandi astrologici nel cristianesimo che però col passare dei secoli, uno, se ne è perso il significato a livello collettivo, due, li vediamo lì come simboli sulle chiese, ma non li sappiamo tradurre in un'esperienza interiore. Vediamo il Cristo con i quattro evangelisti, i quattro animali, ma non li colleghiamo. Il toro, il leone, l'aquila e l'angelo. L'uomo che è l'acquario, l'angelo che è l'acquario. L'aquila sarebbe lo scorpione, no? Sarebbe, sì, sarebbe l'uomo dell'acquario che sostituisce, sì. Ma anche per esempio il rosario, la recitazione del rosario è un tipo di religiosità, secondo me, ancestrale. E guarda caso anche nel cristianesimo cattolicesimo di oggi, la recitazione del rosario forse è l'elemento che più si riconnette a queste recitazioni, no? E anche di fondate sul ritmo, sulla musica, sulla sillaba, sulla parola, tutto quanto. È tutto grande ritmo cosmico che viene riproposto a livello microcosmico nei ritmici, appunto, mantra, diciamo, con terminologia indù. Ma ritornando al cristianesimo, ma voi avete presente il fatto che, per esempio, alla fine del secondo secolo non esistesse più una casta sacerdotale egizia? Cioè, per 3.000 anni, la religiosità egizia, di cui parlo nel libro, insomma, con cognizione di causa, la religiosità egizia si basava sul ciclo di Sirio, che è un ciclo che si compie in circa 1.500 anni. Per 3.000 anni... circa, cioè due cicli di Sirio, la stella Sirio sorgeva al solstizio d'estate dell'anno tropico, dell'anno civile, al 19 luglio. Quindi al 19 luglio, se voi foste nati in Egitto, insomma, vissuti, in Egitto, quindi vi foste posti in direzione dell'est, in direzione dell'oriente, al solstizio d'estate, al 19 luglio, avreste visto la stella Sirio come ultima stella che scompariva prima del sorgere del sole, questo che significa il sorgere elioco di una stella. E quello era il famoso capodanno egizio. Per 3000 anni Sirio sorse eliacamente nel sole, insieme al sole, al solstizio d'estate, prima in realtà nel leone, poi con lo slittare della precessione dell'equinozio nel cancro, tant'è vero che Set, il nemico di Osiride, assume diciamo la forma dell'asino, perché le due stelle del cancro principali si chiamano gli aselli, cioè gli asinelli, però, il calore soffocante dell'estate. E per 3000 anni circa, ma se arriviamo al secondo secolo, cioè siamo già abbastanza in piena era cristiana, vediamo che la stella Sirio è slittata avanti, perché la precessione degli equinozi fa sì che le stelle slittino sempre più avanti, tant'è vero che le Pleiadi all'inizio erano una costellazione estiva, ora sono una costellazione invernale, quindi slittano sempre più avanti. È questa la grande sofferenza del cosmo. E la stella Sirio nel secondo secolo avanti Cristo slitta in avanti, adesso sorge verso Ferragosto, verso il 10 agosto, quindi molto più avanti rispetto al 19 luglio. E che succede? Succede che la casta sacerdotale egizia nel secondo secolo dopo Cristo scompare, non c'è più niente. Se voi ponete mente, gli egizi non esprimono più una casta sacerdotale ricollegata agli antichi culti della religiosità egizia dal secondo, terzo secolo dopo Cristo. Scompare improvvisamente, scompare. Io dico. La casta sacerdotale egizia si trasforma nel monachesimo del deserto. I primi monaci del deserto egiziani, Serapione, Orsiesi, Pacomio, Antonio, Visa, che sono i primi monaci del deserto. Però attenzione, portano tutti nel loro nome delle divinità egizie. Serapione, Sarapide o Serapide, grande dio sincretico, ecco, che però ricorda sempre il Cronos Saturno mesopotamico, perché era una divinità portata via da Sinope del Ponto, quindi in origine egizia, quindi un epiteto di Enchiea, Sarapide, signore dell'oceano, signore delle acque infere, Serapione, Orsiesi, San Orsiesi, Orsa Isis, Horus figlio di Iside, altro grande monaco, grande maestro del deserto, gli stiliti. Poi loro si ponevano su una colonna nel deserto. Pacomio, San Pacomio, grande, altro grande maestro del deserto. Pachem, il dio Chem, il dio Chem, che è un allotropo di Osiride. E San Visa, Bes, il dio Bes, grande dio rappresentazione del solstizio d'estate, famoso anche nell'alchimia e nell'ermetismo. Quindi noi vediamo una riorganizzazione, non vediamo una vera e propria scomparsa dei culti primordiali egizi, ma vediamo una riorganizzazione dei culti in una veste diversa. Diventano monaci. Monaci del deserto, sotto l'egida del pesce, l'era dei pesci. Ora siamo alla fine dell'era dei pesci, andiamo verso l'acquario, dicevo prima, sarà l'era del diluvio, in cui non esisterà, io credo, più alcuna forma di religiosità, se non... questo è quello che gli indiani chiamano il pralaya, io credo, cioè il tramonto, la notte degli dei, pralaya. andremo verso una nuova era, peraltro l'era dell'acquario, attenzione, acquario domicilio notturno di Saturno, domicilio notturno di Saturno, quindi il dio che si sta già incaricando, per la verità, di sommergerci. Da livello, dovete sempre intenderlo però a livello cosmologico spirituale, dovete liberarvi dell'idea dei diluvi materiali, delle piogge, dei cambiamenti climatici che non c'entrano niente, perché sono sempre esistiti, sempre esisteranno, ci saranno, la materia non conta niente. E quindi saranno 2000, perché il sole equinoziale sosta in una casa dello zodiaco per 2160 anni. Ho fatto un calcolo nel mio libro. Ho preso il calcolo di 64.800 anni, che è il calcolo che René Guénon dice di durata totale del Manvantara, cioè di un ciclo cosmico formato da quattro yuga, da quattro tempi dell'induismo, divisa per 30, cioè il bontà sua il ciclo siderale di Saturno, cioè il tempo in cui, immaginate sempre la Terra al centro dell'universo, il tempo in cui Saturno impiega per ritornare in una stessa casa dello zodiaco, che sono circa 29 anni e qualcosa, 30 anni, diviso 30, e ho ottenuto precisamente, stranamente, 2160, perfettamente, cioè il tempo di una stazione equinoziale del Sole in una casa dello zodiaco, sorprendente, no? E questa è grande dottrina pitagorica, perché i pitagorici su queste misure ci sguazzavano. Ma non solo, io penso anche ai Maya, agli Aztechi, sì. I calendari, noi pensiamo ai calendari Maya Aztechi, che erano appunto cicli dentro cicli, ingranaggi dentro ingranaggi. E addirittura i Maya capirono quando ci sarebbe stata l'eclisse, che c'è stata poco prima del 2000, mi sembra. Secondo i loro studi, l'hanno sbagliata di tipo un giorno, non so, una cosa del genere, a distanza di 1500 anni da quando scomparvero. Che vuol dire che non è una questione solo di induismo, di greci, di sumeri, eccetera. La questione è che l'uomo arcaico, non si sa come, aveva una visione del tempo che appunto era fatto di ingranaggi dentro ingranaggi, cicli dentro cicli, e tutto quanto portava delle semine, dei raccolti, dei diluvi, delle morti cosmiche, delle rinascite cosmiche. Diluvi sempre da intendersi in senso astrologico. Però. Anche vedere la storia come un susseguirsi di fenomeni anche a livello collettivo, a livello di stati, a livello di paesi, di popoli, che però in realtà... Prego, prego. Tu hai menzionato l'uomo dell'acquario, intendi una tipologia di essere umano che verrà... No, intendevo l'uomo dell'acquario come proprio figura astrologica, cioè lui è proprio, l'acquario è rappresentato come un uomo che ha in mano un vaso da cui si riversa acqua. Sì. Prego. Prima parlavi della mentalità arcaica. Sì. Mi è venuto in mente un'esperienza che ho avuto nella discesa di una grossa dose di fumo. Uh-huh. E in cui praticamente ero con i miei amici in un parco e avevamo portato qualche fungo essere terrestre. Avevamo portato tipo un po' di cose da mangiare, tra cui anche delle ciliegie. E dopo questa discesa, cioè durante questa discesa, a un certo punto, per tornare indietro, ho preso una ciliegia e dicevo: ah, questo è il sopra e sotto, buono il sopra e sotto, e quindi ritornavo. Perfetto. Ad avere, questo è il dentro e il fuori, ah buono il dentro, questo è il bagnato e l'asciutto, no? Come se dovessi, certo, ritrovare, e mi ha fatto venire in mente quello. Esatto, è proprio così. Però vedi, è in quegli stati alterati, tra virgolette, che noi apprendiamo, comprendiamo. Allora faccio un intervento di un secondo, poi vuole fare un'altra domanda, mi sa. Nei misteri eleusini di Persefone, il melograno è il simbolo, perché il melograno è un frutto unico che lo apre, c'è dentro, no, c'è la sfera da fuori e poi mille sfere dentro. Quindi è la molteplicità nell'unità, questa è una cosa meravigliosa. Poi vuoi fare un'altra domanda, mi sa? Sì, questa non so se ha senso, però la questione del verbo, no? All'inizio, cioè la parola, però è connessa con la musica e dall'altra parte connessa con pneuma, psiche e, per dire, prana. Mm-hmm. Cioè, questa cosa che, perché comunque quando parli, no, usi, cioè respiri anche, no? Cioè butti fuori aria e la parola può creare la musica. Ha un certo senso questa cosa che mi è venuta in mente? Oh, beh, assolutamente pertinente, figurati. Ma del resto il corpo parlante, no, come si diceva prima, è il corpo vivente. Come dicevo prima, cioè gli antichi come distinguevano il corpo morto dal corpo vivente? No, attraverso il respiro. La psuche in il respirare, lo spirare. Non solo l'uomo, anche, non so, il tronco di legno per un estatico, no? Che faceva certe esperienze, l'aria passava dentro nel tronco e questo causava dei suoni che venivano interpretati in maniera profetica. Ora mi fa ricordare cioè, infatti ogni sì. Ogni elemento morto del cosmo, per così dire, nella nostra mentalità moderna, in realtà non è morto. Se il vento, il pneuma ci passa dentro, crea un suono. Mi fa ricordare un verso di Dante, appunto, poi dove lui perché secondo me abbiamo parlato tantissimo, abbiamo rotto i coglioni. Sì, infatti vi liberiamo adesso. No, mi facevi ricordare un bellissimo verso di Dante, di uno dei, cioè il mio canto preferito dell'inferno, che è quello dei suicidi, il 12° canto, no? In cui lui appunto stacca un rametto dall'anima del che è Pier delle Vigne, un grande ministro di Federico II di Svevia, no? Ed esce sangue da questo rametto, no? E dice Dante, cioè, paragona il grido dell'anima imprigionata in questo tronco, spezzata, sferzata, no? La paragona appunto a quell'aria, a quel verso che fa il ciocco di legno nel fuoco, no? Quando al contempo fa uscire, no, ardendo, espelle la resina, e al contempo un fischio lungo e terrificante, no? Quindi sì. E quindi le anime sono, sì, sono musica e sono sofferenza dell'essere. Beh, questo poi si lega anche a tutto il discorso induista della cremazione, no, la perché ricordate che l'inferno è già qui, Agni, dio del fuoco e del sacrificio, eccetera eccetera. Basta, poi io chiuderei qua perché sennò abbiamo parlato troppo, non mi vorrei dilungare. Grazie a tutti dell'attenzione. Grazie a tutti dell'attenzione, di averci sopportato. Grazie mille Andrea, grazie Marco per averci portato in questa macchina del tempo, grazie per le infinite risonanze e connessioni. No, questo è il secondo evento che facciamo qua in Cox con la società psichedelica, cioè a nome della società psichedelica italiana. Ce ne sarà un altro il 14 dicembre che tratterà del rapporto tra esperienza psichedelica e cibernetica. Avremo due ospiti, uno da Pisa e l'altro da Milano. E niente, da Filicudi in realtà, dalla Sicilia. E nel qual caso voleste rimanere in contatto, potete lasciarci i contatti, la mail, i numeri. Abbiamo creato questo gruppo per seguire gli eventi. E ringraziamo tantissimo i nostri ospiti perché è stato davvero interessante. Grazie ancora dell'invito e dell'attenzione. Grazie mille.